voglio dire io, hai capito? Tu allora mi nota una cosa, tu ti metti in piedi, sputi e vai a quanto vai, a 2-3 metri, giusto? L'altro si mette sopra di te, tutta, non arriva più a 2-3 metri, ma arriverà a 5-6 metri. Se ne metti un altro sopra ancora, più è alto e più la parabola è grande, mi vuoi capire? Lui, il vantaggio che ha, che essendo sopra una montagna, quando lui esce con 5 watt, tu ne hai bisogno di almeno 20 per arrivare a quello che arriva lui. Non so se avendo un'idea, Cioè, più sei in alto e più eroghi, capito? E più c'è spazio. Poi, non parliamo di pompare, perché se lui dovesse pompare, essendo in alto, e non metti di più che un casale bene se fate lui a mettere a tutti. È la stessa cosa. Cioè, quello lì è il vantaggio di essere in alto e libero. È una cosa molto importante. Tu guarda Falchetto, con un bastone, con la scusa che aveva la zona buona ed era in alto a un cuscino, arrivava forte dappertutto, cioè arrivava forte, arrivava basso, ma arrivava dappertutto. Adesso che c'ha l'antenna, fa quasi il doppio di quello che faceva prima, perché prima lui con patata non se lo sognava neanche di parlarci, eppure ha parlato con Pattada, ha parlato con Buduzò, ha parlato con Tempio, e con Tempio non sono tutti che è facile ad arrivarci. Ho reso l'idea, non si tratta di essere forte tra me e te, e praticamente noi ci tocchiamo la mano ed è un discorso, però se tu vai a parlare con Pelfugas, tu confronta lui, non ci arriverai mai, lui arriva ma tu non ci arriverai, perché sei in basso, devi scavalcare le montagne, lui è già sopra una montagna. Ma quello c'è sopra di dubbio, però a passare, non io ho fatto un solo discorso, che a passare con le persone lì è difficile, tutto qua il discorso, perché qua arriva una bomba, poi dopo si vedrà, voglio vedere proprio come arriva qua, quello è il discorso. Una meta si sa che può arrivare dappertutto così in altezza, quello è senza ombra di dubbio. E lo so, non è che non lo so, no. Se tu adesso guardi, adesso ti faccio un altro paragone, metti che qui arriviamo quasi tutti quanti a bomba uno con l'altro, giusto? Metti che facciamo un QSO, io, tu, Gian Maria, Gianni Do Perù, e mettiamoci anche a Giuseppe, che anche se è un po' fuori, è lì. Noi ci mettiamo a fare un QSO. Lui, se vuole entrare, e si c'è la portata, non è che ci copre, però se non lo senti sopra, lo senti sotto. A Maragliana, non intendi mai forza, pure se non lui. Sopra lo senti per forza. Se ne accorgi che c'è, però non passa, è quello il discorso. Adesso vediamo come va, dai. Non ci metto più bocca, vediamo se esce veramente così forte. È una cosa logica. Praticamente arriva filo della casa, arriva filo della casa, andrà come per Sassari, pure lo sollevo là, diciamo che due altre parti, ce ne sono altre 6 metri sopra, tenda, arriverà forte, elimina anche più piccoli ostacoli che non accetta. piazza, perché lui si innalzo, però per entrare a casa sua è una bella arrabbiata, praticamente la loro casa. Sono in alto, se lui riesce a uscire fuori dal livello stradale, che l'antenna rispecchia poco a poco sopra gli alberi, se va a Luca può pubblicare i carti. Adesso vediamo un po' come arriva qua. Quando arriva il percentuale è molto molto meglio di come adesso. Quindi Arduino, ti sto dicendo quanto tu, Arduino non mi ha detto mica, ci avevo contato da 8 metri. Che avevo. Beh, lo sai, io non ho 48 ore, ma è stata sotto a casa sua. E io ero qua a Sassari, mi ha detto mica. Ah no, ogni giorno con Santa Teresa, tranquillo, con Baglesi. Vabbè, ma lì è un altro tipo di zona anche. Sì, ti sono presenti, sì, ma c'è un'antenna libera ai noghi. Intendo una tracchia a Rio. Vediamo, dai. Cappa. Beh, io vi saluto, dai, che io vado a fare commissione adesso, come ogni sabato. Ce la risentiamo dopo, cappa. Ciao, a dopo se coincide. C'è stato un break sotto. Avanti per i saluti, prima poi facciamo entrare il break. Ciao, Antonio, ciao. Avanti Marico. Ciao tu, tutte le prossime dai. Vai forse. Ciao a tu, tutte le migliori. Fate, c'è stato un break prima, avanti il break. Grazie, buonasera, sono te ottava. Mi dai un controllo, Franchetto, Mario e Natalino, che vabbè, sta uscendo questo microfono. Comunque, i controlli li fanno tutti alla Neuro. Tu ti devi controllare la Neuro! Se no la professor Padula! Ma quello controlla la Neuro, chi si controlla un'altra cosa, Natali? Ma uscendo sta questo microfono, che gli ho spruzzato un po' di CRC? Lui che sta uscendo, se no te l'abbiamo detto chi dice di male, già sta uscendo bene, ci ha fatto pizzina. Mi sento una bomba! Attento a non scoppiare! No, ieri scusa, io non sono rientrato perché poi questo mi stava dando problemi. Non ti preoccupare. Era qualcuno, penso alla salute e alle gambe storte, il resto viene da solo. Perché ti sono così male, Mario? Ma stai usando, ti accolpi, sì. Sto usando un baracchino. E niente, dai, io sono senza voce. Vabbè, la voce sì, ma è il segnale che ogni tanto non esce dal radio. Ah, io con tutte le radio vai, piglia un pazzico e mettetene una seria. Già lo faremo con la calma. Non so, le cose sono le nervole. Va bene Mario, avanti Giulio. Ciao a tutti, ciao Sabatone, Mario, poi chi c'è? Natalino, Falchetto, altri ce ne sono, se c'è qualcun altro vengo fuori. Ma salutoni Giulio, ben sentito. Ciao a tutti, avanti Mario. Mi ha preso con due palmi, no, per Giulio, cosa ne dici tu, l'antenna nuova, col carro nuovo, con due palmi, lo riesci da bene, era qua? Beh, penso proprio sì, sicuramente è meglio un pochino più di adesso, senz'altro, un capoluogo, un minimo di mese in più ce l'avrà, suppongo almeno così dovrebbe essere, se il lavoro è fatto a dovere, dovrebbe migliorare un po' la situazione, però è sempre una questione di altezza, se uno si trova in una buona posizione va bene, diversamente non c'è niente da fare. Io mi ricordo negli anni passati che avevo un carciofo per antenna e poi riuscivo a parlare tutti i giorni con l'Isola d'Elba, con una ragazza dell'Isola d'Elba, sia io che Ivan, quello di Usimo, il famoso venditore di mobili. Dunque, e nessun altro, io parlo dei giorni che non c'è la propagazione, non fraintendere. E devo dire che solo io e lui ci riuscivamo, perché evidentemente avevamo la canalizzazione giusta, a differenza di tutti gli altri, capito? È sempre una questione di posizione. Avanti, Salvatore Maestrale. Sì, no, tu hai ragione, è una questione anche di posizione, di apertura. Comunque la carina è una buona posizione. Natali, che antenna ti sta levando? La Mantova 5 metto, il carro nuovo e 12 metri di palo. Io penso che con 12 metri di palo dovrei uscire fuori da qua. Sì, alla grande. Con 12 metri di palo esce dal buco e allora sono duri, sono duri. Tappatevi a Sassari, ui ui. Esagerato, Salvatore. No, perché la postazione di Tattarino è buona, perché c'è da quel buco che magari dove la radiazione è diversa, ma questa è la radiazione di onde. Guarda, ne parleremo, vai perché ne parleremo. Capo, comunque io ho migliorato, Salvatore. Tu tantissimo, però ecco, non mi arrivi col segnale che per la posizione che tu dovresti arrivarmi, quante altre persone, tipo quanto Roberto, quanto lo stesso Natalino, quanto lo stesso, ti mancano ancora qualche punto, sicuramente anche tu non sei alto come antenna. No, 2 metri ce l'ho io. Si vede bene, comunque hai migliorato tantissimo qualche, però te concentri su altri 2 metri. La tiro fino agli altri 2 metri. Va bene, Giulio, e allora, cos'è? Tutto bene? Come va questa radio? Sto usando il vecchio Galaxy. Bellissima, Salvatore, bellissimo e fortissimo. Fortissimo alla radio, è bellissimo, chiara, chiara. Lusso, Salvatore, nessun problema. Stavo dicendo, a proposito di antenne di Mantova 5, ieri sono andato da quel negozio che una volta era Le Cunce, adesso si trova per Danieta, e ho chiesto quanto costava la Mantova 5. Non ero andato direttamente per prendere la Mantova 5, ma avessi il motorino per la parabola satellitale, no? Che mi si è guastato, e invece non ce l'hanno un motorino, ma già che lui ha fatto, beh, allora già che sono qua mi compro l'antenna nuova, tanto la devo cambiare adesso fra un po', ho pensato inizia il tempo buono, mi cambio l'antenna. Ma la Mantova 5, a casa mia madre, mi ha chiesto prima 147 euro, poi è sceso a 137. Hai detto, lascia perdere, lascia, che con quei soldi ne compro 2 di Mantova 5. E te l'immagini data lì? Già lo so, perché sono andato anch'io, ne voleva 139, ne voleva, dalla Mantova 5. Ma io sono l'ho presa in continente, però. Però occhio che stanno esaurendo, e non le trovi più. Se non ne troviamo più ne compriamo un'altra, non è la prima del mondo. E a voglia, se ce ne sono di antenne. No, ma dico io, ma quando mai? Infatti non è possibile, ho fatto Gianni, guarda, io la voglio comprare qua l'antenna, ma se tu la vendi a quel prezzo è impossibile comprarla, perché evidentemente non volete vendere voi, perché la Mantova 5 ha fatto con 100 euro, me la ce l'ho a Sassari, ordinandola da Continente, in 3 giorni a Sassari, e quando a 137 euro, ci sono 37 euro di differenza, e non è poco, non mi sembra che siano pochi. Fate, dice, noi non siamo, dice, venditori diretti, no, guarda che dove la compro io, nemmeno loro sono dei venditori diretti, è un negozio che più nemmeno come puoi essere tu, e dunque a questo punto 37 euro non sono da buttare, mi sembra, e ho fatto così, e ho detto vabbè, ciao, me ne vado, e me ne sono andato, capito Natalì? Non sei uscito Mario, non sei uscito. Deve essere che non c'è il microfono riflettore, evidentemente. Ah, Natali, quanto hai pagato tu da 5? 120 euro, tutto compreso. Meno male c'è una tassa di cavo. Adesso e ce la mette sopra appena arriva. Adesso mi devo verniciare prima, mi faccio luci bianche per vedersi, perché sennò è alto lì e qua passano gli elicotteri, non si dà mai. No, sempre che te l'ho chiesto, Giulio, allora quella che c'ha Mario l'abbiamo ordinata per la tecnocomunicazione, quella che c'ha Mario è la Mantova Turbo e l'abbiamo pagata con il trasporto 111 euro. Esattamente in un negozio che si chiama subito.it, si chiama questo negozio, 99 euro, poi ci aggiungo 12-13 euro di trasporto e siamo a 104 euro, aranda 137, se permetti c'è una bella differenza, tu adesso mi stai dicendo su 111 euro e mi stai confermando quello che ho detto io o sabato. Allora, vai su tecnocomunicazioni.it, www.tecnocomunicazioni.it. La Turbo, la 5 non ce l'hanno perché è esaurita, c'hanno la Mantova Turbo, il ritiro viene 99 euro, più il trasporto 111 reso in casa. Adesso tutti in continente non ce ne sono più, ma poi va a fare il miracolo questa 5 che mi sta arrivando, perché la Turbo ce l'ho già. Scusa, ma perché la stai mettendo la 5 nel trattamento la Turbo o Natale? Perché la 5 è fatta meglio. La Turbo in 2 anni si pratica tutto. C'è quel piattello che si arrugginisce sotto dove ci sono i radiali, te ne sono tutti i radiali. Capito? Io adesso me la metto nuova e faccio un lavoro come si deve. E ti faccio vedere che senti la tracca da qua. Io ce l'ho più di 2 anni, mi viene il produttore se ce l'avevo e questo aveva avuto problemi dove innestava nel palo e basta, lui per il resto non ha avuto mai problemi e penso che non lo dovrebbe fare, cioè non penso che mettono in produzione l'antenna se sanno che fa male. Non è che vada tanto bene, no. Io ne l'ho scesa 3 volte da qua, perché mi ha fatto diventare scemo. La 5 c'è il radiale in coso, no? C'è il radiale in... radiali in resina? E via. C'è un radiale in più della Mantova 1. Sì. No, la 5 invece c'è la... come si dice? La Turbo ce l'ha in alluminio, ma il segnale ho abbassato, Natali, il segnale mi sono abbassato. Io non ci ho fatto caso perché sono collicato, sono con il baracchino piccolo, capito? No, perché mi sembra che questo si sia abbassato il segnale, se no vuol dire che c'è l'alimentatore che sta partendo. Ok, dai, riprendi, Mario, riprendi e poi fai già il falchetto. Babbo si è spostato. Dove è andato? Ah, piccolino! Ragazzi, la forchetta, va bene, falche e vetrine. Cappa di logio, vai, si fanno tanti paragoni, tante cose, ma speriamo bene, no, sono convinto che anche Natalino con i pari esce la grande, dai. E comunque tu ce l'hai troppo bassa, 2 metri è troppo bassa, vuole almeno 3 metri, perché un quarto d'onda è 2,75 metri, occhio perché mettila almeno a 3 metri l'antenna, che non va bene 2 metri. E infatti la sollevo adesso di un altro metro, a 3 metri va bene. 4 metri, 1-2 metri ti conviene sollevarla. Almeno rivalia meglio, capito? Capa. Di che sta chiamando Salvatore? Io sono. Ha detto proprio di chiamarlo 2 secondi. Ascolta, c'ho il telefono giù, io non lo sai. Lo chiamo pure, dai, quello fisco questo qui se no, se non c'ha problemi. Che ti devo chiedere una cosetta. Va bene, vedi che tra 5 minuti lo schiamo, va. cosa ti volevo dire? Ma c'è anche l'altra, mi Giulio, quelle che si assomigliano alla Mantova, le hai viste? Che ci hanno rovesciato la bobina trasparente. Sì, è la Teller quella, Ma sì, ho visto anche, però non si chiama la Teller su quella cosa sul computer, non l'ho vista, non mi ricordo com'è che l'ha chiamata, forse è la Sirius, se ricordo bene, qualcosa del genere. Sì, ma comunque la conosco, quella ce l'ho adesso, in questo momento ho la Teller, ma è una antenna vecchia che ne sono uscite già la metà dei radiali. E appunto, per rispondere a Natalino, dice, in effetti i radiali in alluminio si rompono lì alla base, ma si rompono non perché si marciscono così in due giorni, perché si posano i volatili sopra e quando hanno la spinta, magari rispetto a quel motivo, non è che perché Natalì si arrugginisce o meno, no, assolutamente. Io ho questa antenna, ce ne sono 16 radiali ed è un'antenna di 30 anni, dunque ne sono caduti adesso nell'ultimo periodo 6 o 7 radiali, ma ancora resiste e dunque non è così. Non sono convinto che si arrugginiscono e cadono in due giorni, Natalì, no, capito, tutto lì, riprendi Natalì. Non sono i radiali che si arrugginiscono, no, il piattello è fatta male l'antenna, c'è un piattello di ferro che si fa, che si arrugginisce, se lui addirittura è verniciato, l'ho verniciato io, capito, là, è fatta male l'antenna, non è come la stella. Ma che sia fatta male l'antenna è un altro discorso. Natalì, oggi i materiali lo sappiamo, anche poco fa stavo leggendo lo stesso, c'era gente che non era contenta, ad esempio per le fascette di giunzione e per altri motivi anche, il materiale di cervello dice che l'antenna hanno abbassato, però hanno abbassato anche la qualità dei materiali e si sa, oggi lo sappiamo, i materiali sono quelli che sono, non sono più come quelli di una volta, allora in qualche maniera abbassano i prezzi e diminuiscono la qualità dei materiali. Però sono stupidaggini, perché ad esempio io stavo leggendo stamattina che si trattava ad esempio delle fascette di collegamento, le fascette di collegamento si possono anche sostituire, le metti in acciaio inox, le metti prima di montare l'antenna e te ne dimentichi poi di ritoccare l'antenna, capito Natalì? Infatti, ma non avanti possono usare in acciaio. Ma prima sì, ma siccome oggi c'è l'economia che sta andando un po' male, allora cosa succede? Loro sono costretti a abbassare i prezzi, per abbassare i prezzi devono diminuire la qualità dei materiali, tutto lì. Ma ad ogni buon conto la Mantova Turbo, tu stesso mi stai dicendo, adesso io mi ricordo, te l'avevo portata io quella lì, ci sono anni che so che ce l'hai lì a casa, era poi una Mantova usata e dunque se puoi immaginare, fa un po', metti insieme tutto il numero degli anni, arriviamo mai a 15 anni di vita, quanto deve durare un'antenna? 250 anni? Non credo. Ma è fatta male come antenna, me l'ho scesa 3 volte io, questo mi ha fatto diventare matto a me. Cazzo. L'ho dovuta aggiustare io, se no era già da buttare da chissà quanto. Un attimo, riprendo io, senatore. Davide, ci sei? Davide, ci sono. E come faccio a far telefono a tuo padre se c'è il telefono spento? Ma vai, mi sto provando adesso, dai, stai vicino al telefono. Signor, capito là, l'ho dovuto fare l'induttanza io, qua, un macello. Perché stava andando male l'antenna. Non avevo più corpo, perché lavora in cortocircuito questa antenna qui. Ed era un casotto, 3 volte non l'avevo dovuta accendere prima che funzionasse così come sta funzionando adesso. E adesso però me la voglio mettere nuova, la piccola, perché è troppo vecchia. Ti vuole riprendere io, Davide, è spento! Oh, io me l'ho acceso, ce l'ho sotto gli occhi. Vabbè, chiama al mio, 347 93 50 431. Aspetta, facciamolo scrivere, ripetilo piano piano. 347 7, 93, 50, 431. Ok, sto chiamando. Poi c'è anche un'altra cosa da tenere in considerazione: se tu hai necessità di un pezzo, tipo un radiale o qualsiasi altra cosa, la base che è la base dove si attacca l'antenna, e la trovi, sta a significare che chi costruisce quell'antenna è una ditta seria, una ditta importante, perché ci sono i pezzi di ricambio, a differenza di tutte le altre antenne che i pezzi di ricambio non le trovi, capito? Ma dove tutto c'è quel piattello dove tiene il radiale che è in ferro e quello si arricchisce. D'accordo, ma lo trovi come un pezzo di ricambio, tu mi dirai, ma perché volevo cambiare? Ma non è che tanto si arricchisce da un giorno all'altro, e poi potresti anche in un certo modo riservarlo volendo, perché basterebbe tingerlo come si deve, una mano di tinta buona, e sicuramente gli anni di durata si allungano. Ma tu non fanno contatto i radiali se tu lo vernici, perché stavo parlando anche con Adriano e abbiamo concluso la stessa cosa. No, dove ci vanno attaccati i radiali chiaramente non lo tocchi, lì poi ci metti del grasso di vasellina, ci devi mettere, verniciare tutto il resto, ma poi lì ci metti del grasso di vasellina senza intaccare la qualità dei contatti. Insomma, in qualche maniera uno già si arrangia volendo, ci vuole anche un pochino di cose, diciamo, di impegno là, nel poter retrarre, eccetera, capito? Chi era l'altra lì? Non l'ho copiato più, avanti. Ma sì, tu passa la passina e compara la valla nuova, la della ruggita. Mi sono messo lì, tu bisogna mettere il ricambio e recuperarci. Ciao Piappa. Infatti, a differenza delle altre antenne, che le altre antenne per il ricambio non ne hanno, la delle muni nuova direttamente. Capito? E così. Vabbè, là. E poi se non si facciano le comparenze non le vendere, è un problema lì su. Vabbè, mi ammaglio, no? Capito? Adesso imparo io, prendo e rimetto l'antirugine prima. E poi lo vernicio, rosso e bianco, perché qua, cazzo, è meglio che si veda da lontano. Perché 12 metri il palo alto, capito? Meglio, certo, più in alto la tiri su l'antenna e più possibilità hai anche di andare avanti, lontano, ad esempio adesso che Claudio si trasferisce e per stare in una stazione, perché si trasferisce di nuovo dove era prima, io ho visto quello che sta facendo e devo dirti che è una cosa fatta veramente in grande. Dunque lì la posizione lo sappiamo, forse la migliore di tutti lì a Sassari, dove abitava prima, e ritornerà lì perché ha comprato una casa lì, si è comprato e si trasferisce adesso, mi sta preparando il tutto, una gamma a mano, tutta in tre, tutta piena di apparecchiature, tu devi vedere qualcosa da spavento o una tagli veramente alla grande. Io me lo posso immaginare, ma io non pretendo di essere così alla grande, ma anche la cosa deve andare bene. Ma sono esatto, Ma Giulio, ma di nuovo sul grattacielo, ma perché? Sì, di nuovo sul grattacielo, dove abitavo prima, però in un altro appartamento, no, che si è comprato adesso di recentissimo. Io devo fare i lavori anche lì, dunque ho visto dove deve stare installando la stazione, eccetera, eccetera. Alla grande proprio, vabbè, senza risparmi, insomma. Il punto è bello, quello signor punto, veramente, forse da lì domina tutto quanto, Sì, forse lo stava rimpiangendo Claudio, quel punto lì. Non lo so questo, se stava rimpiangendo quel punto lì, però è sicuramente il punto migliore, anche perché parlando da lì parli con tutta la Sardegna o quasi. a differenza di magari dove è adesso. Lo stesso è una buonissima posizione, questo lo sappiamo, è fortissimo anche da lì, però quando sei a quell'altezza lì, in quel palazzo, sono un palazzo a 9 piani, devo immaginare, più c'è tutta l'altezza della città, che possiamo capire in che maniera, poi già lo sappiamo come usciva prima, no? Capito? Anche se esce forte lo stesso dove si trova in questo momento, però è solo questione di tempo adesso, perché si trasferisce, già tutto deciso, già sta facendo tutti i preparativi. Minimo ci sono 300 metri di differenza in altezza fra dove adesso e dove deve andare, è il punto più alto, bellissimo, bello bello. Ok Mario, sei entrato? Yeah. qualche danno mio lì. E per quello adesso sai cos'è, che io ho il tubo telescopico, adesso si è bloccato, non va più in su, ma bisogna che non lo tolga, ne scenda tutto, o mi cambio il tubo o mi cambio, oppure lo devo far diventare più scorrevole. Non bisogna vedere cosa, come l'hai messo tu. Il tubo telescopico, tu pure il telescopico, guarda che non è resistente quelli telescopici, vuole il grosso di spessore il tubo. No, sono tubi d'acqua fatti da me, solo ho fatto telescopico, l'ho fatto, perché se non mi veniva male piantarlo su, hai capito? Non sono fatto, tocca, premetto che l'alimentazione mi fa parte, premetto abbassano il segnale, è mia impressione, non sembra che ti abbassano il segnale. Comunque adesso vedo un po' di terra, un po' più in su, bene giù. Ok Salvatore, e allora fatelo, Paolo Savicini, infatti, Paolo Ascensori così chiamato, con un argano in basso ci tira su il palo da solo all'altezza che vuoi, io l'ho vista, l'avevo anche salvato il sito dove c'è, al computer l'avevo anche visto da poco, con un palo quadrato e salvato, c'è un palo lungo per dire non so di 6 metri e poi dentro c'è un master che sale e scende con un argano da sotto, ti puoi abbassare l'antenna a livello di uomo oppure tirare da su del tutto al massimo anche, e non c'è bisogno nemmeno dei tiranti, tanto più che il palo è quadrato e dunque il vento non va a farebbe girare l'antenna, capito? È abbastanza robusta, tu che puoi lavorare il ferro o meglio del materiale in officina eccetera, per te sarebbe un gioco farlo. Ma non ho pensato, ce l'ho visto anch'io sulla rivista. Dale sarebbe così, perché tanti di su quando ti piace quanto lo vuoi tu. Sì, è vero. Comunque devo farlo perché, ripeto, anch'io sono basso, me ne sono accorto. Penso che non stia disturbando, però anche quello può dare credito a qualche disturbo ai vicini. Sì, va bene, dai, ripeto Natali. Ma anche l'antenna non lavora bene se è troppo bassa, capito? Come fa che tu l'ha messa a 2 metri, l'ha messa, non va troppo bene così, no, perché non mi varia bene, vero? Almeno un quarto d'onda di altezza. Sì, ma dal piano del tetto, diciamo, cioè dal radiale al piano del tetto vuole almeno 3 metri di altezza. Allora, mi sa duro, io sono, non dico che sto sperando, ma sono molto vicino e quindi no, la devo tirare su perché sono convinto che va meglio, va, esce meglio, sì. E quanto volevo dire, come ci sono adesso, Giulio, stavo usando anche questi pali in PVC mi adesso. Sì, quelli sono ancora più buoni, ancora più lungo come palo, per quanto ne so io vuole anche 7, 8, 10 metri anche. Sono, boh, non so, sinceramente non so quanto possano essere efficienti, però boh, non credo che ne valga la pena. A parte il fatto che costano un sacco, costano, ma questo è un altro discorso. Non te lo so dire, non li conosco, ho solamente letto qualcosa, qualcuno dice che è un vantaggio e altro invece dicono di no. Bisogna saperlo, ecco, non so cosa dirti, Sabato. Guarda, io l'ho visto su una rivista, sì, parlandone con altre persone, tipo con Roberto, mi ha detto che lui le ha viste e sono molto robusti, hanno la stessa robustezza che si può dire che c'è un palo normale. Però sai, uno, cosa si può dire, lascia la strada vecchia per la nuova molte volte, temi, perché come leggerezza sono un sacco leggeri, rimanovri bene, rimanovri da solo, non è il classico palo, ma se lo leggeri puoi manovrare tranquillamente, io Giulio. E poi ovviamente bisognerebbe provarli e dopo un po' di tempo constatarne l'efficienza, ecco. Sì, quello sì, e poi penso che magari uno è anche costretto a mettere i tiranti con un palo del genere, è costrettissimo. Ad esempio, prendi, io qui l'antenna non ho mai messo un tirante, uno che uno, eppure il palo mio è intorno ai 5 metri, in questo modo, ma devo dire che quando c'è vento, anche vento molto forte, l'antenna in se stessa si piega, sembra una canna da pesca, però il palo rimane bello dritto, tranquillo e senza grosse dimensioni, voglio dire senza grosse misure di palo. E dunque, non lo so se quello in fibra o com'è, se ha la stessa forza, probabilmente vuole ancorata come si deve, io ho già fatto. E tu Natalia, mai visto niente di questi pali in giro? No, però me ne devo buscare uno per salire su un altro di ferro. Mi servirebbe uno almeno da un pollice per infilare in quello di ferro che c'è, che è quello ribaltabile, per salire di altri 6 metri almeno il di ferro, perché è troppo basso, è a 10 metri adesso. E lo voglio alzare ancora di più. Anche il dipolo devi sollevarti, quindi non solo la mantova. Sto cercando un palo di quelli così proprio. Ma guarda, c'è un'azienda che su... Te l'accetto, te lo passo, su un'azienda che li sta dando, ma non so neanche cari. Mi sembra che costino intorno ai 15 euro ogni spezzone da 3 metri, così. Oh, infatti. Mi serve così per un dipolo ideale quello. Sì, per il dipolo lo prende bene, va benissimo. Ma cominciava a giugno, sai, ha messo senza tiranti sull'antenna, non mi fiderei neanche io, non mi fiderei. Adesso sai cosa faccio, scendo questa e vedo un po' di cosa si può fare di più. Non stasera certo, stasera manco. A parte c'è il vento, c'è freddo giù. Beh, oggi non è la giornata adatta per fare certi lavori, no, bisogna aspettare quando il tempo è ancora più buono, in modo che uno lavora tranquillamente, senza rischiare niente, capito? E il discorso è questo, vedi, Natalino ha la possibilità che nessuno di noi magari ha, per il semplice motivo che lui, abitando dove abita, lì in campagna, può fare tutto quello che vuole, addirittura a livello di traliccio volendo. Però è solo una questione di idee e di mentalità e soprattutto anche di pretese di quello che uno vuole ottenere più o meno. Perché uno è a fare un lavoro in un tetto in città oppure qui dove abitiamo noi, l'altro è a farlo in campagna, il lavoro dove abita ad esempio Natalino, e può addirittura partire dal terreno col traliccio, tanto per fare un esempio. Su, mi dirai, ma forse non ne vale la pena per fare il CB, è più un lavoro da radioamatore, eccetera. Vabbè, uno però intanto se la possibilità ce l'ha può fare quello e altro. Capito, Salvatore? Sì, no, è vero, da quel lato è ben avvantaggiato, ma ti posso dire di più che io c'ho il problema, io c'ho qua la direttiva smontata, piazzata, però messa in terra. E c'è il problema perché se va molto su non so come farla girare, perché c'ho vicino l'antenna della parabola della TV, quindi devo fare tutta una serie di modifiche. Avessi avuto un po' più di spazio non ci avrei pensato minimamente, sarebbe stata già su girando. Certo, lo so, anche perché, sai cos'è, c'è anche un altro particolare, perlomeno io l'ho preso, in una casa così come dove abitiamo noi, così, non è che puoi installare certi tipi di antenne, perché sarebbe anche esteticamente brutto tutto sommato, se vogliamo, anche se uno è in grado di fare o sa fare un buon lavoro, tutto quello che vuoi, tutto bene ordinato, eccetera, però è sempre un qualcosa che non è molto simpatica da vedere, mentre invece in campagna, avendo tutto lo spazio a disposizione, il terreno soprattutto, uno è un traliccio e fai tutte le antenne che vuoi, l'altro è un tetto, è diverso il discorso, sicché Natalino da questo punto di vista ha un grandissimo vantaggio, ma evidentemente a lui tutto questo discorso non interessa più di tanto, a lui basta avere un palo lungo, si monta l'antenna e via, vero Natalino? E io ne ho uno da 10 metri dove c'è il dipolo, qui c'è quella dell'antenna e poi c'è altre antenne lì. Insomma, antenne già ne ho traliccio. E facevo fare un traliccio, guarda, e mettevi tutto su lì, all'altezza che volete. Non è così semplice, no? Poi io il traliccio non me lo posso mettere ancora, perché io devo traslocare da qua, me ne devo andare a fianco. Quando sono a casa mia, proprio, allora faccio quello che voglio. Scusa, non si può smontare il traliccio, perché come fissato a terra, lo sa, con dei tiranti. E allora non mi è mandato nel traliccio, il traliccio gli aveva già venuto a fianco. Tante le antenne le devo mettere, anche lì. Ma non ci vuole solo il traliccio, ci vogliono altre antenne, ci vuole questa della 27, insomma, di nuove antenne. Perché, però dico, magari con una base di un traliccio puoi mettere quello, puoi aggiungere più antenne. Io mi ricordo quello che c'ha sempre montato, io lo vedo tutte le volte che passo, quello che c'è agli punti, quello dove abitava prima Walter. Quanti anni ci sono? Ce ne ha tre antenne sopra, ci sono. Quanti anni sono lì? Eppure non si sono mai mosse. Già lo so. Ma ce ne vorrebbe più uno di traliccio per andare bene, perché tutti su non lo puoi mettere. E qua puoi mettere la direttiva e poi puoi mettere le altre due, una da fianco e la mantova in punta. La mantova non va bene sopra la direttiva, no? Puoi mettere la mantella di quelle piccole, non la mantova, capito? Devo mettere due o tre direttive, infatti devo mettere tre direttive, poi devo mettere una bibanda su e poi le altre le metteremo da un'altra parte. Sì, puoi fare così, puoi fare. Ma cosa, se uno si organizza anche Giulio, anche in un palazzo, cioè esteticamente sul problema è quello lì, l'estetica. E poi il problema sai qual è, Giulio? Che se poco a poco qualche televisore non funziona bene, ti vedono le antenne, siamo responsabili subito. Visto che è quello di Marco, le antenne. Ma quelle che ci ha messo sempre, modificate le ali ultimamente. Adesso è questa la cubica. La cubica non l'ho vista, ma già appunto che l'ha piazzata là. No, la devo piazzare, ancora non c'è tempo buono per poterlo fare. Comunque quelle delta le ha tolte, ma vista la quante ce ne sono. Sì, ho visto, è pieno. Ma forse quello che anche Walter nella discesa d'ottava, coso, è pieno, eh? Ma no, perché sono antenne che servono, capito? Senza contare tutti i microfoni che ci sono attaccati tra un traliccio e l'altro. Sì, ne ha poco di poli, mezzo di poli, dopo lì è pieno. Sì, capito giù, poi ti bussano e ti dicono come hanno fatto a me, il televisore mi fanno fastidio, lei mi sta disturbando, io sono ci sono a casa, come faccio a disturbarlo? Quello può succedere, Salvatore, certo, io quel problema lì ce l'ho avuto tantissimi anni fa, quando allora appunto stavo lavorando, qualcuno diceva che io le disturbavo, invece non era vero, non c'ero nemmeno, sì, ma è perché allora si sa, sai cos'è, che queste antenne hanno un come illumina, non ce l'hanno tanto buona, basta che ci sia un uccellino che si mette sull'antenna della televisione, ti fa una piccola interferenza e allora subito la colpa è del trasmettitore, invece no, non è così, diciamo che prima succedeva, ma adesso già c'è il digitale, è già diverso il discorso, anche usando piccole potenze suppongo che vada bene lo stesso, poi se uno attacca il chilo è chiaro che allora può sempre entrare, soprattutto almeno di armonica, non lo so, però dipende, ecco, ad esempio, come stava dicendo poc'anzi Natalino, innanzitutto bisogna mettere sempre l'antenna più in alto, almeno un quarto d'onda rispetto alle antenne TV, eccetera, e non solo dalle antenne TV, da qualsiasi ostacolo, sia sotto che di fianco, eccetera, eccetera. Minimo ci vuole quello, questo è stato. Poi bisogna utilizzare dei cavi tranquilli in modo che siano bene isolati da mandare spuri, eccetera, eccetera, da perdite, eccetera. Se poi noi cominciamo a avere grosse potenze, cavi da 4 soldi, potenze elevatissime, è chiaro che poi le armoniche si espandono e entrano sulla bassa frequenza di altre apparecchiature, e allora il discorso sussiste. Però, osservatore, io penso che oggi sia rimediabile al 100%, intanto un po' perché ci ha aiutato il digitale, le televisioni non sono più come prima, con il segnale digitale è già più riservato il fatto che uno possa disturbare o meno. E poi facendo un buon lavoro, utilizzando le potenze adeguate, senza esagerare, penso che si possa risolvere anche quel problema lì, capito Sabato? No, ma è vero che questo sabato scorso mi ha bussato, no? Mi ha detto che il mio tecnico mi ha detto che forse lì mi sta disturbando il televisore. Ha detto, guardi, mi sembra strano, questo sta tre vie più avanti di noi. Mi sembra strano perché non si è lamentato mai nessuno. Dice, no, guardi, ogni giorno dalle 4 di sera fino alle 6 e mezza, alle 7, c'è questo disturbo. Io ho detto, guardi, a quell'ora sto lavorando, quindi non è possibile che possa essere io. E poi mi ha detto, ma è perché quello che è strano, che quello che è vicino a me, che c'è l'antenna 1,20 m da me, 1,20 m, quindi l'hanno anche misurata, dice, non c'è nessun disturbo. Io ho detto, scusi, se disturbava lei, disturba anche il suo vicino, cioè forse quello lì. Vede che ha detto che ho un problema del suo televisore. No, lui è convinto, no. Ha detto che andava in fondo a controllare, lo giusto. Io sono tranquillo, molte ci vuole, ma tante cose che vada, perché io ho il diritto quanto lei di vedere la televisione e io di trasmettere, siccome io ritengo di essere in regola, se lei ritiene che io non sono in regola, si faccia avanti, poi sarà, si verrà, in più là, è tutto lì, tu sei tranquillo, a quel punto lì che cosa hai da prendere? Niente, cosa te ne frega. Poi ascolta, se mia cognata lì da farci gli affari suoi non lo prenderà, ma che noi dobbiamo parlare noi due insieme, dici così, se per caso è mia cognata. No, io sono andata a chiedere ai vicini, ne fino non è tranquilla, alla Maria non ho niente, tra questo invece queste due, tre isolati avanti, cioè tre isolati, addirittura è dietro Luigi, risulta, dietro Luigi, siccome lui la sua antenna c'ha la parabola sua in direzione della mia, il tecnico gli ha detto che potrebbe essere io, ma io anche ci sono quando c'è quel disturbo. Dice che non gli blocchiamo, si blocca l'immagine, va via la voce. Ha detto, guarda che quello è un problema del decoder, gli ho detto, che sicuramente sono quei televisori che hanno il decoder integrato e gli stanno problemi. Però intanto chi è giusto, che mi ha suonato a casa, mi ha suonato pure a casa. Non so, tanta gente alle volte si fissa, invece prima dovrebbe controllare se stesso, nel senso che chiama una persona come si deve, uno che ne sa di fatto di antenne, si fa controllare la propria antenna, il proprio televisore e così via. Allora se ritiene dopo aver fatto tutti questi controlli non dipende da lui, che dipende da fonti interne, allora può anche rivolgersi dove crede, però siccome tu sei tranquillo e sai che le cose le hai fatte bene, non ti devi preoccupare più di tanto, soprattutto nella maniera più assoluta. Sarà lui a risolvere il problema. Tu al massimo, se proprio lui ritiene, puoi dimostrargli che hai collaborato e che hai fatto le cose come si deve. Però da lì a dire che sei tu direttamente ce ne passa, Ecco, prego. Ecco, registrato. Dimmi, ciao Luigi, dimmi Natalì, me lo ricordo benissimo. Quello lì che non ho dato non potevo parlare, perché come si lasciava l'importante che fava le televisioni di due palazzi. Ma almeno era lui, era? Sì, che era lui, ma perché? Perché la storia. Ecco, qui ho detto anch'io, ho detto, quanto ci controlli, controllati prima il televisore tuo, controllati il tuo decoder che ci ha integrato, e sapete per me, il decoder che ti sta funzionando male, perché lo faceva anche a me un decoder, ogni tanto si bloccava l'immagine, dovevi andare a spegnerlo e ripartiva. Ok, va, va bene, entra avanti lui con la buonasera. Buonasera. Giulio, che c'è la direttiva giù in terra, Pensa se metto la direttiva qua, se c'è la rivoluzione qua. Immagina, te lo giuro. Chi lo sa, anche quello è vero. Certo, se già sentono loro il secondo loro, ammesso che sì, tu no, c'è l'interferenza da parte di due, puoi mettere la direttiva puntata sull'antenna di loro, chiaro che allora sarebbe veramente una tragedia, ma io ritengo che non c'è di niente. Tu oggi casomai l'antenna della io, anche perché tempo fa già da diverso tempo avevo letto in delle riviste elettroniche che la maggior parte delle colpe dovute all'interferenza era sempre almeno il 60% apparteneva all'antenna TV o addirittura alla TV direttamente, cioè era parecchio, perché avevano una media frequenza poco filtrata oppure una media frequenza vecchia che riusciva a captare tutte le armoniche del trasmettitore. Sì, c'è da dire che un 40% dipendeva anche dai trasmettitori, questo sì, però oggi il problema si è risolto alla grande, perché col digitale è tutto un altro discorso, intanto perché il segnale TV si è rinforzato e poi perché è tutto un altro sistema, capito? E per entrare nella TV bisogna che ci siano delle potenze grandi, capito? Se no non credo che sia possibile interferire, sempre che gli impianti siano fatti a dovere, sia quello appartenente alla TV sia quello del trasmettitore, ovvio, no? Capito? Vai lui! Scusate, anche se c'è un salvatore che io adesso sempre faccio, se non attaccato sto salvatore, ma ora c'è troppo di tutti, mi prendi il salvatore, sto saltando una cosa. Andiamo avanti, là, vediamo un po' qualche cosa succederà. Sì, ma ti posso una cosa, giuro, tanti anni sono stato in viale Protovese, nessuno mai nessuno che si sia lamentato, nessuno. E ti posso dire di più, che davanti a me, immaginati, ovvero prima, davanti a me posteggiavano quelle scomposte. Quindi, se avessi avuto problemi, l'avrebbero di fronte. Beh, sicuramente, lo so, ma purtroppo è così. Alle volte diciamo che bisogna anche trovare una zona dove uno magari addirittura posso dire che devi avere un po' di fortuna, che non ci sia qualcuno o per gelosia o per qualsiasi altro motivo che viene a rompere l'anima, capito? Purtroppo è così, sabato, però è sempre una cosa risolvibile, perciò basta un po' di buon senso, innanzitutto da parte della televisione e poi anche da parte nostra, fare i lavori come si deve, con tutti i vari accorgimenti, e si risolve, perché si risolve così, niente è impossibile, almeno in questa frequenza qua e con queste potenze che usiamo noi. Vai Natali! Poi infatti con il digitale adesso mi sembra un po' losco a entrare lì. Poi la teoria del supermercato è la teoria dell'amplificatore che vuole filtrato. È logico che lui dice entra lì. Perché vuole filtrato quell'amplificatore lì? Però per le televisioni, se non è che usi potenze spropositate, non è che dovresti disturbare. Ce la faccio, ci monto di nuovo la direttiva che c'è qua pronta e provo a puntarla sulla sua parabola e io tiro giù dentro 1000 watt, vediamo un po', pensi che gli dia fastidio? Sì. Siamo come l'allumo che non si spaventa più. Alle volte l'interferenza può risultare anche attraverso gli impianti Enel, cioè la rete elettrica stessa, perché non è detto che sia per forza dall'antenna trasmittente, può risultare anche quello, ma è risolvibile perché anche quello si può fare, nell'alimentazione basta mettere un pezzo di ferro cube produrre un piccolo avvolgimento e risolvi anche quello, eventuali spuri attraverso l'impianto Enel, diciamo così, perché l'impianto Enel ce l'abbiamo tutti, no? Oppure dei toroidi, sono di quegli anelli magnetizzati, sempre tipo ferro cubo, con un avvolgimento tutto attorno, basta appoggiarlo sul capo di alimentazione e quello può anche essere efficiente, perché alle volte succede direttamente non dall'antenna trasmittente, ma bensì dai cavi elettrici che noi tutti abbiamo, cioè l'Enel. Noi abbiamo notato una cosa qua, che nella zona dove stiamo noi, dove sto io e dove sta Luigi, hanno montato un sacco di questi ripetitori dei telefonini. Ah, è strano che da quando l'ho montato questi, sono successi questi problemi. Per me sono quelli lì, c'è qualche cosa che sicuramente indicherà problemi sia a chi ha queste cuffie senza fili, sia a chi ha quell'altro parlante che vanno nei wireless, cioè capito? Per me da quando l'ho montato questi ripetitori dei telefonini sono successi i problemi. Quasi che lui non perché sbuglia e niente, è la piccola. Apposta, per me da quel momento, però vai giù e dire, beh, quelli se ne fregano assai e mica possono andare di cosa, no? Per me da quel momento. No, ma se vanno le scoperte che sono loro i ripetitori, li fanno mettere in regola. Hai capito? Neanche loro possono disturbare la TV. Vabbè, ma prima viene da noi, non va prima da loro, viene da noi a rompere l'anima da lì. Poi controlla tutto, che se non è cavallini grazie a farlo di festo, ma è forza. E sapete che ci sono i ripetitori, lo sa benissimo quella persona che quindi trasmettono. Sì, ma l'abbiamo fatto, ma li prendi giù. Ad esempio adesso mi è venuto in mente che io qualche anno fa avevo piazzato l'antenna ad un amico in via Grazia Deledda, all'incirca o Natalia, all'altezza di dove era una volta il vetraio, dove stanno, più o meno abita lì, e tu lo conosci anche, chi è? Sto parlando di Peppino Tanti, il sollevatore di pesi, delle cose, l'olimpionico. Avevo piazzato questa antenna, tutto in ordine, tutto a posto, un quadro cinescopio perfetto, di lusso, veramente. Un bel giorno mi diceva, ma lo sai, dice che stanotte ci ho sentito delle voci alla televisione, estranea a quello che era la trasmissione stessa. Ho fatto, ma ci sarà qualche interferenza, ci sarà stata a parte. Vabbè, era una cosa così passeggera, una cosa temporanea del momento. Beh, la cosa invece si ripeteva, non dico tutte le sere, ma quasi, dice che quando accendo la televisione, a secondo del canale che io sintonizzo, dice sento queste altre voci, queste modulazioni, boh, ho fatto, non so cosa dirti, l'antenna è in ordine, tranquillo, non hai amplificatore antenna, non hai niente, come vedi, sì, no, non parlo di quello, ma sono evidentemente c'è qualcuno, ma a meno che vicino non c'è qualcuno che ha qualche baracchino, allora non c'è da digitare, no? Ho fatto che magari vicino a te ti può creare un'interferenza. Invece no, non era così, non era un'interferenza dovuta a qualche baracchino, è che lì nel frattempo avevano installato un ponte del telefono, e evidentemente era quello che entrava, però subito dopo è arrivato il digitale e non sente più niente, ecco perché poc'anzi dicevo che da quando c'è il digitale molti problemi si sono risolti, capito Salvatore? E invece qua è il contrario, quando c'è il digitale si stanno pensando, vabbè. Ok, ma io faccio un attimo di piano che mi stanno chiamando, devo scaricare la spesa, se no me ne tacciano i cavi da giù, me ne tacciano, riprendi da lì. Ecco. E capa. Guarda, c'è stato un break, avanti. Buonasera a tutti, doppio room. Ciao Gianni, ben sentito. Andando? Andando sto. C'è Giulio qua anche, avanti Giulio. Ok, ciao già. salutoni e buon lavoro. Andando dai, vai che sei in ritardo. No, sono in perfetto orario, Giulio. Perfetto orario, io entro alle 5:30, a voglia. No, dai. Un attimo che chiama Natalino. Gianni, la cosa sarà già con i baffi vinti, sarà a carta. Cosa? Non ti ho capito, Natalino, troppo forte, sì. Ho detto che c'è quello lì che avrà già i baffi vinti, ho detto. Comunque c'è stato uno delle mie chiamate, avanti. Cazzo, uno che ti ha chiamato, non conosci più nessuno. Mica aveva fatto il back Giuseppe, lì. Io l'ho conosciuto, avanti Giuseppe. Beppe, non lo sento, Giuseppe, ci sei? L'ha fatto un paio di volte da un back, non è stato fatto entrare. Ma boh, io non l'ho sentito, forse ci saremmo accavallati quando magari ha fatto il break in lui, non lo so, io non l'ho sentito. Vabbè, dai, andate. Già, poco fa ti ho appunto citato, perché stavamo parlando di antenne, di interferenze, TV, eccetera, e cose varie, no? Appunto ho fatto l'esempio che il problema che avevi tu in passato, che tutto era dovuto, il difetto era nell'antenna della TV, appunto stavo dicendo come esempio, l'ho tirato fuori, dicendolo a Salvatore poc'anzi, capito? Già. Sì, non c'è problema, dai. No, buonasera Pierpaolo, innanzitutto, dai. Cappa, non c'è problema, sì, è così. Quella lì era proprio fradicia, non me l'ha toccata l'antennista, non me l'ha toccata l'antennista al condominio, non me l'ha toccata lì, se c'è coraggio e tu non c'è nessuna colpa qua. Qua la colpa è tutta dell'antenna che è fradicia. Cambiamo l'antenna, dice come vogliamo mettere i filtri, passo a passo, questa e quella. Come cambiamo l'antenna qua non c'è più nulla, così è stata, ha cambiato l'antenna, ci ha fatto il giro di tutti quanti i palazzi, tutte le abitazioni, e nessuno sentiva più né interferenze né niente, né righe, lì si avevano bene il televisore, perché si lamentavano anche che non avevano bene il televisore, eccetera. Sì, perché è così già, tu lo sai, no? Meglio dire che basta che ci sia una piccolissima interferenza, la colpa è sempre, dipende sempre dal trasmettitore, perché ormai è un luogo comune, capito, dare la colpa al trasmettitore. Invece più delle volte, anche perché stavo dicendo poc'anzi, io leggo molto sempre delle riviste in elettronica, stando a queste interferenze, il 60% delle volte il difetto sta proprio nell'antenna TV, mentre il 40% secondo questo ingegnere elettronico dà le colpe ai trasmettitori quando i lavori non sono fatti alla prestazione. Tutto lì, appunto lo stavo dicendo a Salvatore Maestrale, perché lui ha avuto un problema da parte di qualcuno lì nella zona dove abita, capito? Tutto lì, non so se tu eri all'ascolto poco fa e se hai ascoltato il discorso. Va bene, dai, c'è Pierpaolo, avanti Pierpa. Ciao Pierpa, buonasera comunque. È lo stesso difetto che avevo a California. Sono salito, gli ho messo a posto l'antenna e non ha disturbato più. Cosa ci spiega, Giù? Come si spiega, Natalia? Il problema si spiega proprio come ti ho detto. Il discorso è sempre questo. Il lavoro non è che va fatto bene solamente da una parte, deve essere fatto bene da entrambe le parti. Cioè, in questi casi si deve collaborare sia da una parte. Uno non è che può venirmi a dire, ma io prima che tu installassi questa antenna vedevo bene, ero tranquillo, non avevo nessun problema. No, aspetta un attimino, non è così. Perché se permetti io gli stessi diritti che hai tu, ce li ho io, uguali, identici, né più né meno, tu con il tuo ricevitore e io col mio trasmettitore. Di conseguenza, se tu prendi dei colpi da parte del mio trasmettitore, ammesso che sia il mio trasmettitore, devi pensare anche di sistemare il tuo impianto per non ricevere appunto le mie interferenze. È così, bisogna collaborare, cioè ci vuole buon senso da una parte e dall'altra, capito? Già, avanti, ti prendi già. Certo che è così, non è solo a senso unico, ma siccome i malvisi siamo sempre, appunto perché dico, prima di mettere la tanto non li mette, io l'antenna non la tocco come volevano farmi fare, e volevano mettere il film per farmi togliere l'antenna. Appunto, dunque a quel punto lì è chiaro che la gente deve mettersi in mente questo, che il lavoro, anche se il loro in quel momento non hanno problemi, però deve dare anche la possibilità agli altri di avere gli stessi diritti, no? Non significa niente, e poi deve mettere 50 euro per sistemare tutto un pianto di volo, deve fare, se no io sono in regola e continuo, poi sono problemi tuoi se tu ricevi l'interferenza, ma io metto, non lo sa bene così. Tutto lì, va bene, dai, vediamo un po' se Salvatore è mai rientrato. Salvatore, ci sei? Sta ancora scaricando la spesa, Salvatore. Le prendi i Natalini? Sì, ma addirittura, oltre a avermi messo i cavi nuovi che scendevano dalle antenne all'amplificatore, ho dovuto sostituire anche l'antenna da coso, da Franco, perché proprio era pratica, non facevano contatto, capito? Io dico che come se era una costante crepava tutto. Proprio voglio in YouTube, ma anche nell'apparecchio normale lì, come schiacciava, tac! Mi subito disturbava. Ma che imbarazzo, disturbato, va bene, non te ne bussinari. Allora ho preso i cavi delle discese, li ho messi nuovi, che vanno dalle antenne all'amplificatore, ho messo l'amplificatore dove si deve. E in più gli avevo sostituito un'antenna nuova, perché quella era proprio da buttare. Gli ho fatto quello e non disturbava più nessun canale. Beh certo, ero quello. Ma è così, no, poi la cosa più che ti dà fastidio, sai qual è, Natalì? Che c'è qualcuno che si fa giustizia da sé, noi lo sappiamo benissimo, i nostri cavi scendono in facciata, magari rasentando il fianco di una finestra del sottostante a noi, oppure soprastante a noi, e allora che cosa succede? E se fanno giustizia da sé, magari ti mettono lo spino nel capo, oppure addirittura te lo tagliano, come è successo tantissime volte, l'avrai sentito. Mi sembra che un fatto del genere da poco era successo anche a Pio Paolo, se non erro. Ma dimmi tu come ti permette di toccare tu la cosa degli altri, sono cose assurde. Aspetta che mi faccia la conferma a Pio Paolo, perché un fatto del genere mi sembra che tempo fa era successo a lui. Pio Paolo è così? No, Pio Paolo non ci deve essere. Pio Paolo ci sei? No, non c'è, evidentemente si è spostato, ho chiuso. Vabbè, capito Natalì, che questo è anche un abuso, questa è prepotenza, bene proprio, non è possibile, capito Natalì? Infatti, lui ci passano i gravuri, troppo di bambini la usa, di bambini, e si creano anche danno, perché se tu non te ne accorgi, crepi tutto. Infatti, sì che a quel punto lì, no, ma tutto questo perché? Perché convinti che loro hanno ragione, invece noi come te la pensa ieri, è tutto un diverso discorso. Ma mi sembra che c'è ancora Luigi sempre ci sì. Luigi non può parlare, forse perché sono le 5 e un quarto, perché questo negozio si è aperto. Avanti Gianni! Luigi se ti bisacci, mi la sala chiusa, ho trovato, là. Se avessi qualche gara, adesso mi tocca fare tutto il giro a porta vuota, non è così. Bello ce l'hai le ali quella macchina, apri le ali e passa sopra. Sì, ce le ali, stiamo bene. Quando lo voglio far andare, ma qua non fa correre perché ci sono i corsi volontari, che c'è qualche gara ciclistica, capito? Ho capito. Te l'avevo detto che era tardi, Gianni. Sto scherzando. Vabbè, dai. Oh, avanti Natalì. No, tardi, non è tardi. Per me diventa le 5 e mezza puntuale, capito? Educata che è per la mia natura più litigata. Ah, è Natalì, già l'avevo detto che era tardi. Era una battuta, naturalmente. Ma che fanno poi, sai, anche di topo, capo? Non è possibile, succede, a volte, quando me lo te lo aspetti, già, te lo immagini. Ma la mano e ti abbasso con il corno di lì. Vieni, vieni all'altro, vieni, entrate, l'altro, entrate, vieni su Graziano, vieni. Giulio, ma la mano e passo con il corno in tasca, io, vicino lì. Meglio così. Ciao, grazie. Meglio così, guarda. Davvero mi... alle volte, ragazzi, tabù. No, ma sembra fatto apposta, no? Quando magari uno ha un appuntamento che deve arrivare per forza in orario giusto, come nel caso di Gianni che sta andando a lavoro, il lavoro non è uno scherzo, una cosa seria, e a quel punto lì tacchi un intoppo, o un incidente stradale, o una macchina che hai bucato una ruta, o ad esempio come in questo caso una gara ciclistica e così via, insomma, sempre qualche intoppo si presenta, male fatta puta, male fatta, non è possibile. E ben risolto hai già, dove sei passato adesso? Adesso sto passando, diciamo, la cosa, la strada che va alla rottura, da lì faccio il giro della piretta, la devo fare. Ci sono i ciclisti che mi vengono incontro, perché qua speriamo che non trovi i tuoi più là, capito? È un casino, eh. Sono tutti i miei colleghi che stanno bloccando le strade. Ho capito già. Vabbè. Vabbè, dai, magari passano tranquilli e tu puoi andare tranquillo e pacifico al lavoro. A compiere le altre 2 ore e mezzo di fatica già. E mi sembra che esce alle 7 o alle 7:30, non lo so, di preciso. Vabbè. Avanti, grazie, fate sentire. Ciao, buonasera, salutino a tutta la ruota. Ehi Gianni, già ce l'hai il corno lì in macchina già, ma te ne voschi lì. Ma sì, non ti dici mille ci visto in giro. Ciao, grazie, come va? Ehi, io stavo dicendo quando passo vicino a Giulio lì, nelle sue coordinate, capita, venati una piccata di uno specchietto, due imbusciate e uno di un bruscotto, uno di un portapacchi. Allora, dammi un anello che dici, chi si ruba il bruscotto, chi si ruba il burro, grazie, ma si sa mai, è un burro, eh? Ehi, Giulio, costruisci un po' la falegnameria. Chi fa, veramente? Lo crocifisso l'ha già costruito, grazie, se vuoi te lo compro uno di sì, per scaramanzia. E ho anche un rosario anche, lo vuoi? E usi quello anche. No, faccio una treccia l'aglio in macchina, anche quando passi da Natalino per sono i bambini. Ma io sono comprato i bambini. Avanti, devo pure un ciubo di zio da buru. Ah, io ho mangiato un ciubo di salsiccia, l'ho già chiesto. Ah, intendi, metà differenza, da un ciubo di la salsiccia a un ciubo di la zio da, metà differenza. Avanti già. Sta stanno doppiando anche le macchine qua. Oh, non ci arrivo l'ora, sono le 5:40, ci arrivo giusto, le 5:30 spaccate. Gianni, la vendetta di corni, vieni, se vuoi scrivere me la compro uno. Sì, no, vediamo i corni. Ma uno mi vedono con palano, si sa mai, gatta. Gianni, mi non fa come te lo che conosco io, entra a lutto, la risetta ma con qua, c'è già davanti allo cancello. O c'è nel fuliano il travaglio. Anche io arrivavo prima al lavoro, la verità civica era sempre puntuale. Anche io, ma non l'ora prima. Un quarto d'ora, 20 minuti, magari qualche volta, sì. Già mi è capitato di arrivare prima. Se no in genere arrivavo 10 minuti prima, là, e intanto dobbiamo aggettare una testa sicura ad andare free. Infatti, arriva lì su Borgo, grazie a te, Cristina. Minca, campagna là giù su il piazzato sopra la Iana dell'ingresso di a casa, chi si l'ha già fatto i punti rui, neri e bianchi, e sono appiccati i ghibi proprio all'ingresso del bottoncino. E più in mezzo al buco di luce un bello bullone, che l'ha già posto un cazzo, bello cornetto, un gobbo e un altro cornetto. Tutti quanti che si cucinano la faccia di chi cominciare bene di noi, campagnata in un capitale di cazzo che si corre di un ritui. Attendi, ah, Natali, già fu così prestizioso, sì. va bene, dai, si sa che così. Una volta ho graziato, no, che lui era casa di stasera prima, i primi anni che io li tornati, no, che io li punti, no. Vera, sono da casa, a Ucci, là, non proprio sono da casa, a Ucci, in un magazzino, vera, una fabbrica di bauli, vera. E veramente, capito, durante la notte, su quanti danno i frati, no, che non erano illuminati, non erano neanche asfaltati, ti puoi immaginare come chi era tanto in subedivano. E a un certo momento ho andato alla Ucci, che passati chi sei lui, con questo bauli, non passate, uno ha fatto un'altra, e poi sento, ben grande butto, era la puntata la Ianna di uno che c'è a casa, e da nessuno te lo campanita, appena che ha visto la Ianna che tu sei incontrato con il bauli, con un buccio in chimica, e sei incontrato, sai, con la luce dell'appartamento, ha visto che viene la bauli, tra Ianna, su, ma è poco quello parato, un raggio è parato, così è grazie. Certo, Ianna, dove... No, in campagna la buona, ti dico io sempre, non la baita, sai che sta mai tenendo, a chi si vede solo un capo, di un corritto, di un gobbo, no, va, che tu cappellonito, rotondo, no, no, a bombetta, chi tu francese, chi d'altro, oh, allora non mi ha messo, come si dice, ma il suo cappello. E vero, con questo va in mano il trinto, va il ferro del cavallo, e aveva l'archi, non che vero corro, e sta paita, no. E però tu se non ci fai caso non lo vedi, però quando lo vedi c'è la bocca a becca, chi dice che ha mai pelle? insomma, però tanto aspettarsi per dare, ho compreso. E vabbè, vediamo se Salvatore Balzare si è liberato dall'impegno. Salvatore, ci sei? Giulio. Dimmi, Pierpa. Ma me la fai un'antenna di legno? Aspetta che no, Pierpa. Vedi che problemi mi sono qua. E che legno mettiamo? Legno pregiato? Oppure un'antenna tipo Grand Prix? Va benissimo, a voglia. Un problema, beh, o Pierpa, che non ha conduzione però il legno. Si sta andando meglio della volta qui. No, ma me la deve fare, lo stico deve essere 12 metri e 50. Perché la metto per merletta. 12 metri e 50, intendi? Ma è te la vuoi attaccare? Non la vuoi buttare un palazzo di cose, no? Di Graziani per attaccare un muro in chivino? No, no, mi hanno detto per bellezza, un monumento, così vedono tutti che c'è un'antenna. Non è un problema, Pierpa. È un simbolo quello, la poi vedo i cribi in alto l'antenna, niente mi cribi. No, no, no, non vedremo niente. I radiali vanno truccarsi dalle corracce, me li devi fare il pieno di Svezia, Internet per me sono tanti, in Svezia. Vabbè, poi vedremo. Vabbè, allora, ho Pierpa, segui le parole, ti posso un'antenna in più di Svezia, e a Natalino lo cornetto in più di Svezia. E tu, Grazia, tu gli hai trovato da solo, non ho bisogno che te lo possa io. Io me lo posso la sola, no? I radiali per i fai merate che è più bello, davvero il di Svizzera briseggia, è meglio il merante che è più turca. Ti vorrei Giulio, ma tu a chi ha già avuto un collega che capitava con il pezzo di legna in mano, volevo la pensavo la lontana lo vedeva la vitenna l'azzurra. Poi io si mi avvicinava, me la pensa per faccia e faceva, ma con Pinocchio se va vitenne. Tu non hai mai avuto di questa legna, no? No, non ho tanto legna parlante, io ho tanto legna muta, no? È più muta di una bretta, compresa. E infatti quando la taglio non si lamenta ne manco. Infatti sono più quale bacia. Cosa ha fatto Edo? Intuendo che sarei andato pure la seguente, lei non mi ha mandato per la carriera, ho pigliato due grandi chitarre madre, si è appoggiato tutto quanto le anche e le fianche, uno appoggiato all'altro, no, sai, e ha formato una specie di cabina, formato, e l'ha detto al vecino, ascolta, tu mettiti sulla porta appena che vedi arrivare il tizio, no, il tuo famoso cliente, tu dici che non ci sono, ma che non abbia la paciente, non sappia più qualcosa ci ha fatto. Va bene, arrivate, che tu arrivi, ma insomma, mica arrivi e mi vedi che ti vengo per sopra, mi dai che si vuole da lì, dove tutti i canti, i bianchi, i armati, che abbia formato una cabina, no, appoggiati così, uno tra l'altro, posticcio, e va a dire, e diceva, no, io scritto, dice, e che tu mi do una mano, mi fui per il vestito di base, ma già torna qui a chiudere la bottega, sì, che torna, come no, per forza, ah, vabbè, allora aspetto, beh, è stato pensamento a chi era, uno manco un quarto, o grazia, a questo punto, vedo, se metti la tutto tanto il mantano incinato, ha detto a questa cabina che abbia filmato con questi vestiti dell'armadio, si vede, si è muovito, e ha toccato un fianco, si è rivolto a tutto quanto, e ha cominciato, tutto quanto, non so tanto so parlare, e tu sotto l'armadio, si ne pesa di colpo, e lei, quando il marito ragazzo gli ha detto che non c'era, se ne doveva andare, e poi mattina ti aveva pigliato pure una settimana, o grazia. Ecco, accorto io, e già ne ho conosciuti parecchi, di tutti i mali, riprese Natali. Riprendi che fa? Sì, capo, io sto preparandomi per uscire, dai, se ci siete ancora ci sentiamo fra un po' la macchina. Va bene, Pierpa, d'accordo, vediamo se riprende Natali. Natali, riprendi? Natali, mi piace l'antenna, mio, oh grazie. Ugaia. Si sarà tenendo i bari, ma ha detto a me si deve tenere i bari. E già l'ho conosciuto Aldo, lo conosci. Certo, Aldo chi? Quel tipo passo che faceva una volta l'arbitro di calcio? E Aldo, cognome Panzali, che era il Grimio anche. Sì, già è quello che ti ho detto io, faceva l'arbitro di calcio, ha fatto, per diversi anni, ogni tanto qui a Russa, ma che abitava male. Tanto di su, è stato quasi un anno che mi siamo imparati a travagli, no? Va via, l'urna del disco, d'una palla che va via, tutti i greci si rabbaidava lì sotto, una via abbiamo fatto un travaglio a Sentino, in quel rione soprattutto, dove tutto villette che è privato, no? C'era la sbarra anche lì. Dalla francese, allora questa francese si rabbaidava, puntato quando arriviamo, tutta l'altra lì. Abbiamo fatto baccoli, bersiani, un sacco di lavoretti. Un armadio scorrevole l'abbiamo fatto su misura, la piazza del sotto del seminterrato che ci aveva. Allora questa francese la poi andate lo vegiuti, sono andati a prendere i travagli. Mi domandava sempre, signora è innamorata, e mi dice, ma scusa, ma quello Aldo, quello con quelle cose grosse, non ci viene più, signora, sta facendo un altro lavoro dall'altra parte. Allora che signora è innamorata, ci va via le palle grosse, chi ci va via l'ernia strozzata. A posto siamo, non è possibile. E la Giubito sarà un 3 mesi fa la Giubito, l'ha già incontrato il negozio di parlamento, l'ha già incontrato, interpretarietta da bambini. E io a canno senza vederlo. E lo ha detto Giuseppe, che io la conosco, lo ha detto Giuseppe che faceva il corno a piedi, soprattutto andavamo in giovanotte, che corriamo un pari, corriamo. In bianchino, Giuseppe Panzari, sì. Edu è più minore di Giuseppe. Con Edu non è che sono quasi amico, ma con Panzari si con l'altro non fa detto, sì, ma cosa abbiamo corrido un paio d'anni, un pari abbiamo corrido in tutti i canti di bassi. Compreso, sì che è. A cosa? Aldo non è che lo conosco, lo conosco sì con il nome, so un po' che la maturaccia, eccetera, eccetera, però no, non più di tanto, non è che lo conosco a fondo, compreso, grazie. Ma non ti credi che sia proprio, oh, il cura a me, cazzo, Una volta lasciato il tirimisura a farmi a preparare il controtraia a L, no? Tanto non mi ha sbagliato tutta la cattata, ci mangi mangia tutta la berana, ti davo sotto la misura. Ah, e la bella l'ha tagliata, mi ha tagliato tutti i dori, più corti di 2 centimetri, non andati a livello. Oh, per carità, l'ha messo capisato che li rassemblendi, no? Ha detto, ma le misure lì che di bella, sono tutti corti di 2 centimetri, la cosa me le porto lì, a me le mani, ho aggiunto quella gola, 2 centimetri. Te, io con un foglio lo do rappato, l'ho detto subito in mano, e allora mi ha sbagliato pure un secondo, e tacco non ne va più la cassa. Si vede che poi mi hanno sbagliato questo. Oh, yeah. Vabbè. Non sai la vita come cosa succede, grazie. Ma tu lascia, me ne sono un bel. Ma sono chiamati, ma tu lascia. Poi bisogna vedere se effettivamente uno è ma tu lascia. Ecco che lo problema è che sono, grazie. vabbè, comunque, già ti può pure sbagliare. Poi lascia che in questo periodo era un po' carino con il capo a bombo di amore, dalla sussa che ne abbia raccolto magari la di prima, quando arbitrava le basiti. Anche se ogni tanto il bicchiere in campo lo fa quello io lo fa sbagliare. No, tu va via, un capo bisogna ritravagli che si giù via fa, tu compreso, anche lui veniva sempre con la macchina a carica, veniamo, si arrombava, da questa via, punti punti, tagliando si ribette, te lo veniamo solo, te lo travaglio solo che si giù via fa. E allora ci ha fuori fase, e magliava, sia che tu gridi a io, e sia che ci lo fa via tu, ma con tu solo. Fucaccione proprio. Beh, ripeto, va via, lo metto sbagliato, va via, lo va via, giusto, lo va via, però lo metto sbagliato e lo va via. E non combaciava con lo metto d'uglio, ecco, vale, questo punto, grazie, e questo è. va bene, dai. Oh, yeah. E quanto più ne so di questi bastoni, ne sapete, ce n'è, vedi meglio pure in giro, vedi meglio, grazie. Una di dico, mi viene con questi pannelli di multistrato, ce l'ha tagliata a misura, ce l'ha spruzzata di una lacrima, giallo ocra. E la dice, che ritiri tutti i chibi, no? Cugnate così, tanto l'angurino già non si vede che anda a muro da buio, alle spalle, non ripassi nulla, non si vede. Un mobile ce l'ha venti, un armadietto per il bagno, poi accessori. E che pannelli sono stati 8 pannelli, sono stati, manitti. Vabbè, la posso mettere la giustizia. L'indomani io non la giudizio, l'ho già fatto, non mi ha mandato più. Picca e poi tutti i pannelli, uno in alto all'altro, uno appoggiato, uno in alto all'altro. Quando mi sono capitato il botto, dei pannelli che erano asciutelli, che è portato a rimanere la sera. Cioè tutti i bigiati, mi ha sbigiati, mi ha. Certo perché non saranno asciutti bene. No, quello so sempre, la giuduca, ma cosa cazzo so sempre? E andava a vedere, hanno incollato tutti gli altri, uno con l'altro. Ma tiranini, mi ha tirato con la vescica di la miera, fini, a chi c'erano incollati, brutti, all'ugente. Allora, tornate là, fregate le torna a vernicia, cazzo che ti nascono, ma quando vai gli spruzzi la sera, le mandano a cavalletti, non sono asciutti bene. Oh, non rubo il suore, ma tornate là qua. Se puoi immaginare, quando mai si pensava che la vernice non era ancora asciutta bene, non è possibile. Magari era pure il polvere, però non era seccata, e allora è chiaro che si incollava. Aldo, già lo conosci allo gioco, che è un po' cassai il pasticcione, non un po' cassai. mai avete inteso tanti volti. Io Travaglianti non l'ho mai visto, però ho inteso da un po' di niente, che un po' che sta in pasticcione, ma tu me lo dico confermendi, figuriamoci un poco. Vabbè. Ciao, per l'occupo il paese della vita, ya. A chi è tutta la presa, c'è cioè, venuto a chiedere, mi seggava, no? Le diceva io, mi chiedi, non si vede, non può andare mai, chiedi, non può andare mai nessuno, chiedi la vita, fiaca, non si vede niente, tu quelle puoi andare tranquillamente, pure un anno chiedi, tanto che chiedi, non per passare mai nessuno, a dare le gattasse, no? A chi se aveva fatta la cua, mi chiedo, ma andate se l'ha appiggiato giù. Per carità, e dopo devi vedere quando sei asciutto e hai portato tutto, quando l'abitate, i mannelli, tutti i vita passi in trento, le sue cittadine, se per macumare il patello e paura di cura, se non gliela fai la figura, ma allora vedi, mi sono tutti i vita di trento, tutti i bigorri, tutti pure hai passato tutto il bannello, e io non si vede a conto, sì. Assoluto, bobo. Non ti fai un travaglio da chi su, non sta lì. Vai e fate un travaglio da chi su, ya, e ti accolta. Non saranno. Capito, era sempre piena, tutti bignani, sempre bignani, miseria, ia. Cazzia, quando facciamo qualche travaglio, il bucavo, io impari, no, me la regavo. E mi diceva, lo travaglio, questo è di nanno. Per carità, ma lo devi stare sempre a fare i denti, perché se no abbiamo la maniera, tanto non era tutti a lungo, no. Ma stava la via lì, sono incacciati là. E cosa ha detto venendo puttendi? E adesso che mi ha puttito, abbiamo fatto l'armadio a muro, tutto il caraglio di sportelli, ma grande, grande, lì al Sacro Cuore, in una casa di sì. Popolare che bisogna che hanno ricattato un bel anno fa. Certo, 1.200.000 lire gli avevo chiesto io a quella lì, e la metà li doveva dare. Allora mi ha detto 200.000 franchi, io a chi era Bignelli, ma si subì da capo, 1.000.000, si chiama il Durrava, l'asse, non l'ha giusto né bianca né niente. Ma era di società, però poi mi chiamavi. Siamo andati a fottire un buon chili, non è possibile. Vabbè, e cosa vuoi fare, grazie. Al prossimo travaglio vado. Fate un paletto, ma che si canto di nessun altro, così ma tu puoi recuperare. quando vi lo dicevo, ma lo cacciali. Faccio un mio, oggi manco un mio, parlo bene, adesso ci mangiamo di una tazza di latte, sempre così, là. E mi come ti faccio in mano un travaglio, se mi dà di là, sono fermo, non ti preoccupa, mi sembrava che per se non l'ha mai visto. Una volta buco un travaglio, i chivi di campagna di Suso, da un dottore, da Lumbau, il ginecologo che lavora al policlinico, va un villone, va. E io a quello gli facevo già lavoretti, no? Anche lavori di campagna, tagliarli l'erba, passare la motozappa. E vado a ricattare da chi devi fare delle cornici e un paio di vacconi, no? Non siamo interrato. Però spioventi, capito? Oh, perché poi c'era l'intercapedine in sotto, no? E dovrei dire che i vacconi l'hanno fatto i buchi e tutto, fermo i vacconi, mi ripiace, li rimasti i vacconi, gli hanno messo un po' tutti di essi. La stessa volta gli ho detto, ma te grazie, li facciamo un altro momento che devo partire a un convegno, già ti chiamo io. E di cosa va via? E la gente la telefonata e tu vai andare via qua su mia dita, piaga, no, dalla gammarina che va a un servizio. Ma tu intendi quando rientravano? E non me l'ha fottito tutto il resto del travaglio e si buttava lo figlio. Sta bubo, vado desunito, ma non è possibile. Natalia, te lo può capire una persona del genere? No, no, ma che gli dai? Allora, se ti faccio, io video chi se non mi telefonava, ma la ti telefonate, Ivi, allo studio suo, ma buongiorno, ma quella pure non li finiamo, e non me l'ha mandato lei Aldo, mi ha detto che lì lo senti va bene, è venuto Aldo con, è venuto, sta venendo Aldo con il figlio, mi sta facendo quella pure che dovevo fare, mi sta facendo lui con il suo figlio. Ah, forse me ne ho dimenticato io la giusta lì. Hai compreso? E si è passato tutte le travaglie e di imparare un figlio. E tuttora penso che ci stia andando il figlio. Ma tu sei unito, boh, no, non è possibile, ma è tu, voi, amico, che amico, no, non è possibile, no, non si può fare, no, così, non si può, nella maniera più assoluta, e vabbè, allora ti dico, grazie, quando dice una cosa, può tirare la sola, senza l'aggiunto di nessuno, la vale a fare più fatica, vale a fare tutto di voi, ma va con noi di prima e nessuno ti avuti più. E soprattutto uno non fa dei brutti figuri, ma fa qui per le altre persone, no, no. È meglio da sola, con il desiderio proprio, meglio solo che va accompagnato. Oi, oi, e vabbè. E beh, Natalia, allora, cosa mi dici? Cosa mi dici? Togliaglia laggiù. È proprio vero, grazie. Non ti puoi fidare di nessuno. Dai, ma dimmi tu, capita, ma mi avevo messo da parte a due tavi uomini a fare queste cose, ma dimmi tu, uno ti bucano il cavallo, diciamo, lo avevo un pari, da poi al stesso momento mi butti in vita maniera, no, non è possibile, capita, avrei fatto un bel errore, se avrei tagliato mia cosa, va a dire, fallo fare sulla me che non c'è bisogno, ma di no, e invece no, invece dirti, come se lo travaglio, magari ti si prendi pure un'idea del materiale, e da poi alla fine si è migliato tu a due. No, no, no, andava bene, no. E oltre ad altri figuri, pure il coso, capita. Ti fa sempre passare un po' fisso che non hai pigliato, sia di me che lo travaglio. E lo cliente pure, soprattutto. Ma se mi sono ringraziato, non avevo sputtanato. Tu non ho mandato nessuno, io non ho fatto. Quello lì che sta all'occhio, non sta fregando il lavoro. Perché come te l'ha fatto bravo, mi ha detto che se me l'ha dimenticato. Invece si è lasciato un attimo, ma gli ho sputtanato malamente. No, già sono andato a casa sua, io l'ho già fatto lo scandalo. I chiedi, ora vicino al bar di Grazella, ha già fatto lo scandalo anche alla moglie, non hai compreso, a chi scemo? Vabbè, anche tu l'ha già voluto già papà, farlo fare figure di tromba pure io, convinto. Allora, ti avrà giocato a tavola a pistola, via. Ti ha detto che tutti i colori all'anca, la moglie. Ti chiedi mi fate la faccia che per la moglie. Ehi, ehi, allora si abbaglia un cartuccio e che non va a punire di mano in alto, burro. Una gattolina abbaglia. Ehi, ho chi non aveva bisogno, visto, visto. Ma tu mi devi vedere. Sì, che se lo prese da pulire gli aveva contro la cristiana, ma c'era un po' la figura di merda. Nonostante la gente che c'era lì entrava e usciva. Una volta la gioia di un brutto a stare insieme per la memoria, ma se ce l'ha fatto un casino. Sì, d'accordo, Guido, sì, hai fatto bene a fare il sangue, però tutto sommato, e la moglie cosa ti dice quando tu l'improferente hai detto? Cosa ti dice la moglie? Sì, si è fatta bianca bianca che mi conosco io, un bel di anni, da minore io la conosco la moglie. Questo si rappresentava come un tal di stranita, no, del comportamento, dai, no, del marito, hai compreso? C'è rimasto di merda, proprio, Ghita, che cosa mi voglia di Ghita? Ghita si è tagliata la muta, ma è diventata bianca, e tutti i colori, a chi è rimasta male pure lei, la moglie. Non è possibile, capita, boh, boh. È un bel elemento, eh. È ripeto, non lo conosco a fondo, ma che non lo conosco. Però digiti racconti riguardo ed è un agente su. E poi, naturalmente, uno dice, aveva visto i disegni e magari chissà se raccontando pure l'unità, ma tu invece mi dici confermenti chi sui manito e all'altro. Evidentemente la Rita Bassone è proprio abituato a fare queste cose, dunque è un miserabile, quello vuoi sia, perché un miserabile non può essere. Allora cosa fai tu? Ma pigli tu, non ce la metti in pure a pranzo, così al manco... Fate parte, vedi? Capì quando lo vengo pure da lontano, li furtumi, mi ricordo che chiusa, a chi se lo soffrannome da un bucchio, un lupo li travagliava, a chi era ruffiano, le calcule che si scappa di qua sempre di volta al latte, a ricollegare il travaglio, si creda che io non le sappia che c'è cosa, tutte le volte lo vengo pure lontano le cose la voce, certo, ma se non gamba è trotta. Non è possibile, bubu. Oh, yeah. Cari voce, canto se ne te. Ah, Natali, vai tu in fila di 30 amici. Sì, così si può chiamare naturalmente, ma così si può chiamare. Infatti, quello che ti fa di stessi travagli, ma non fa niente. Oh, yeah. E mi ne ho visto persone bastarde. Ecco, e com'è questo, se non peggio di quello lì, figura. E guarda che io ho procurato il lavoro io anche a quell'imbecille, me ne giunta la moglie di Pignani, a venire a punta laurea in Burrino, a pigliare la travagliata. E ora che posso pure il balauri, la busta, a pigliare la travagliata, a chi sai, no? E la vera è stata di farmi le volte a me da voi, lo signorino, e me le è andata a mare, anche se l'ha fatto con di cura, e però l'ha fatto con la mamma, se l'ha fatto con di cura. La prima cosa che puoi fare, cioè la miglior cosa che puoi fare, che insomma non è possibile, uno si faccia, ma fate i bastoni, la vuoi, magari vieni a te, fammi entrare, così via, invece, e la puoi si comporta in questa maniera. Cosa gli direi io a un elemento del genere, capita? Boh, non lo so, non vedo parole per poterlo definire un elemento del genere, ma che solo un miserabile può avere un comportamento così, di questa maniera. Ma cosa lo puoi chiamare uomo? Non lo puoi chiamare uomo, questo lo devi chiamare proprio le ragioni, tu Giuda, davvero Giuda, proprio io, il nome io te l'hai dato. Vabbè, dai, avanti, vi saluto, dai. Sarlo e paraggioso, andiamo di sotto e vediamo un po' cosa avete fatto, anzi avete fatto una cosa della verità e casomai ti sentiamo domani. Ciao, grazie per questo, alle prossime allora, e quando la ciappa che ci deve le cose piscia di in capo forse è un'umilità, senza forse un elemento del genere. Ciao Natali, ci sentiamo alle prossime. A domani, ciao, riprendi, grazie. Ehi Giulio, ciao. Se non la vuoi, sei la cuccata, tu proprio, già lo sai, già. Quella macchina carica di materiale. Cazzo, ehi. Ciao. Ah, pure un altro lì, la baciuta. Chi se li mancava? E allora, e ma con la borsa l'ha pizzicato proprio, già lo sai, la so con i freni. La macchina è da carica e ti dice se vuole gli porto le fatture di quel materiale e di là tutti chi dice che vuoi a Guido ha tirato per la giustizia e Guido me lo potrei dire e io la faccio e ce l'ha pintata e ce l'ha avuto. Gesù, non è possibile, bobo. Ma dice così, il tomo non ha subito altri, non ha subito in passato, ma che so, voi l'anno passato venivano a San Bassona, in Chivi, in fazia appunto la matessi cosa, si fazia i travagli con il materiale della vita, matessi, c'è questa storia che mi hanno raccontata, ma da tantissimi anni fa. Beh, ma non buccava sai con chissà chi subito ti se mandava subito, ha fatto bene, anzi ha fatto poco, se non l'ha fatto anche il tappo, la chissà da rito, guida. Non è possibile, grazie. Vabbè, mi sa niente è meglio bisilla che acquistarla. Ci sentiamo, ciao grazie, ciao Natalia, alle prossime, riprendi grazie. Ehi, ciao Giulio, Natalia riprendi. Ciao Giulio, ciao, buon proseguimento, buon tutto là, alla Cristina. Sono un ladro io. Anche te l'ha detto di portare la fattura, l'ho comprato questo materiale, e lui tra di me è cuparato là, è cuparato giù là, per non chiarirti là. Infatti, rogliaia. Già ha fatto bene là, nonostante l'ha combinato, per carità, qua, cazzo di un cazzo, lo chiamava e ti bruciava a aggiungarlo, e sotto da me mi voleva la bocca a me. Infatti, sono persone, sono pezzi di, lasciamo perdere va, di me, chi sia un ministro. Ma te lo so così, tu te lo dici, dov'è che bruci, sei un chilometro con la voce. Ebbene, giunga. Anche per la mia, a me me l'avevano detto, come che giù che travagliava in un lungo, no? È una ditta grande, mi stesso, qui a Sassari. Che fanno di tutto, mobili, mattesi, bacconi. Bisogna vedere, allora vedano un bel operare. Tutti gli altri non vogliono i veri frutti. Beh, se si comportava così, al grido, che faceva la bocca di colore, il burro. Già al grido di no, lo vogliono i veri. E non lo voglio giù, ma di no, ha beccato, grazie. No, ma che... E a prendersi di niente, tanto prima o poi la gente usciva in accubiarli, mentre ti dico che è stato, prima o poi da pure li cubieggia sempre sul padrone, e se ricordo in carriera l'ha compreso, infatti è sempre stato così. E lui è il marito, io più, mi vengono pure una mica, se si ne curava tutto il materiale, se no si guarderà mai insomma. Allora, più di uno non gli ha dato liquidazione e le ha andato a vedere che non l'hanno denunciato. Allora liquidazione non gli hanno dato. Lui non gli hanno dato, se lui aveva cambiato un mezzo, se no lui lo denunziava e ha sorriso da voi di scia. Sì, ma che per carità. E tu vai a fare a questa gente, cazzo, è da bigiare la cammino la gente così, imbecille. Allora, tu senza contare che prima c'era l'imbetto di lavoro, no? E se il caso principale ti poteva essere licenziato per furto, non trovavi più lavoro. Anche quello, infatti si è strappato sempre il culo da tutti quanti, perché rimanevano secchi quando se ne avvisavano che era elemento ira. A prima vista lo faria, e invece da qui sotto, a cui si faceva la bacca a robe più parie, li curiava ossa e polpa, e la prima incolpava l'altro, no? Pure abbastanza in quel senso, dimmi e tutti lo buttavano in mano per farlo travagliare ai imbecilli. Allora, a me mi voleva fare volte, ma fa pigliare un figlio a travagliare, chi si mi sente. E da me mi l'ha detto, dice, così, grazie a pasta, così, Ah, così è. E allora io dico che invece passa così, così, così. C'è la tintata già l'ha cucato. Che io cazzo di padre io disgraziato mi vedo pare già entra esce anda a torre quando li piace forse è stata ben da esso a così gli ha detto beh io gli dico che invece è così così così e così sta bene sta bene vabbè e non vi credia ma dove che cazzo gli ha trappisto il gatto e mi si fa credendo. Eh beh, perché tu mi dici a me, è inutile che me lo dici, se non lo vedo non ci credo. A chi da me me lo dici a chi tu credi sia esso, mi scompri, però erano balle. E la penna è tutto da me, fa così mi si vuole a pigliare un figliolo dietro, che era se stava un cazzo, un centriotto, un guasco, un peggio del babbo. Mi immagini, cattura, tra la tua maniera, non si vuole fare così fuori. Ehi, ma non le è andata, ehi, caso che tu mi ha detto, grazie, ma bene che questo, quell'altro, io, no, perché le lascio queste cose, le lascio per vedere chi le ha dette queste cose, e chi mi ritaglio un capo, e solo glielo devi dire davanti a me, e chi tu mi ha detto, no? Logico mi ha detto. Ha detto per allora io, magari, quando vado a chiesto, nel braccio da cammino giù da danza forse, se non riuso più di già da danza a me, quello che mi ha detto lei adesso. E loro non lascia perdere, non ti preoccupare. E vabbè, e allora la poi già l'ha tirato in tanto e ma e già l'ha cuccato. Beh, anche lì vabbè c'è un solo dubbio, è logico che chi l'ha tintato, no? E allora, se parlava l'acqua blu di sabato e di domani che ammazzano un pizzo, vai un pizzo, se parliate travagli a Conto Giulio, e la falegnameria, vai un pizzo, anche tante sabbia che gli doveva la trommita in casa sua. E tu travagliendi, e incasciava Conto Giulio. E allora, e poi chi si aveva fatto il doppione delle chiavi, lui? Senza permesso né nulla, perché le chiavi ce le avevo io, io aprivo e chiudevo, e dove si è fatto un doppione, a chi mi stava attaccata la gianna, una volta aprivo la stava fatta entrare e si è attaccata, però sì, che questa che è uscito e dalla sua, con un furgone, si è pigliato, lo fatto e si è fatto di doppione. Compris, e parlava che non piace a Eto, quando dice sappia che per dire partiva in continente e sappia che io non mi parlavo, o Eto parlava, anche dopo usciamo la droga, e mi veniva a casa e doveva cavare una testa, però Eto si doveva fare, compris. A chi dice me l'ha detto una signora che ha detto mi dice che la chiamavi non si vede la luce e rimattinare in funzione ma tu io no e tu la chiamavi la buona a Trento era niente travagliente senza la falegname via e io sarà per i fantasmi ma tu i fantasmi a chi verrà esso. E anche lì l'ho sgamato, io vi l'ho giudicato io. E se questo non voglio sapere come anche quando si richiavi non me la fa, non me la dici va via richiavi. Ma mi ha fatto vedere si lavava un calcio a bisco e abbia la gianna. Anche ho preso la gianna a manna. Dopo chiudevo, però mi diceva che già ci sono raggiunto, hai capito? E tu parlava di aprire la taberra di la serranda e c'entrava dritto. E invece quando si vede io, beh, come faccio a entrare? C'aveva le chiavi, e ci si aveva fatto un doppione, no? Fumacco. E c'è stato contatto tutto di tratta, di tutta la ferramenta che chi mancava, gli diceva, cazzo, ma tu l'hai trattato? E lei che ha rimasto la tutto scalpello quadro, io non ho più che non ho più tratto, tu non hai tratto niente, ma oggi l'ho fatto in un'altra roba. allora è giusto che tu vieni tra me di Dio, sai, il rubiglione l'avrà pigliato, anche il rubiglione va via la vacca, io prima viene la consegnetta, poi non la consumivo, poi viene il rubiglione, poi mi ha detto visto che il rubiglione è troppo, 10.000 lire a ora, allora c'erano 10.000 lire, io volevo 10.000 lire a ora, scendo a casa, ho fatto la domenica, te la faccio. Da carteggiare, da fare i pezzi inutili, questa barca grande era. E poi mi ha detto che era troppo, e allora il sacco, cazzo, allora è vero, più in là è più pieno, poi fa la cosa, fatela fare da qualcuno più, non te la faccio più. Tanto mi ha già girato le palle sulla di Michele nei truppi, dice Michele Franca, una parte ruddu, cazzo il sabato e domenica, la sera quando finivo di lavorare mi sta già pensando a 6 minuti. Fattero due in pizza e poi a fine mese non mi fa via la regina, io segnavo l'uri. Ma ha detto che l'altro, e allora fa la cosa, a me non mi esibi più di tanto di male. Fatti io. Infatti, fatti l'uri. Ehi, adesso praticate ancora il dividendo qui, chi sa vacca. È rimasto buono tutto questo che ha giocato, tutti i messi in un villaggio busto, tutto questo è tutto pratico. C'è la banda, prima c'era la banda, barattoli di tinta, e c'è tinta marina con sambe di dinamme, impregnante, tauroni, di suono, brutto, pa, levati romani, compreso. Multistrato marino, che costa la vacca di là, cazzo tutto, prima stava la lampada tutto. Tu capello, stucco, bulloneria nuova, tutta in acciaio, magari chissà gli aprirà ancora. E l'aveva comprato un po' di materiale, l'ha giubato, quando si è appigliato l'ha giubato, ma scusa con tutti i fedinari si deve pulire un altro, ricordo, batte di là. E cazzo, gliel'ho accorciata, gliel'ho abbassato la cappottina perché c'aveva la cabina del timone, no? Praticamente era una vecchia motocicletta. Che oggi per avere venduto un po' di città, i fluvi, in anziani, per avere in campagna. Però non se ne aveva mai buttato a buccia. E ho dovuto essere a vendicina. E ha detto con tutti i soldi che qui ci vogliono, tu se mi sono risparmiato a Genova, al cantiere navale, entra a Grande Unito, milioni, con milioni di tenitori in barca, funzionando in mare, perché anche lui che non lo so così galleggia quando la buona muglio. Era di Ciumacco, c'era fissato. Con quei soldi andava a se comprava una già a Muglio, già in mare. E via già. E il marandino non vede i gorri. Tutto svato il bicchio di una campana. Ma sarebbe per portare questa, quello che chi è? Ti posi in mare, gas e la seguire. L'hanno preso il miglior battito, ma non si è formato bene. Certo, sarebbe dovuto prescrivere a scuola, prendersi il patentino. La bella dice, la bella deve appresso l'usino sottilaggi per la benzina super. A chilowattora era turbo, benzina, benzina. Certo, allora che si avevo lì, fa pure il mare che si avacca in benzina. Il patrimonio di Babbuddio ti romagni tutti in benzina. E non avevo su un buca di Savacca. Ma sarà tutto macco, una motore, tu immaginati una motovedetta della finanza che motore c'ha, turbo, a poi era benzina, non era diesel, era benzina, una pezzo di motore, casa la butto mio, zia. Ma se non mi rimotto la turbina, vedi. Ehi, tu sei tutto matto, ma lo sai solo che ci vuole, non ti preoccupare, io sto parlando di gatto a Ivi, chissà se vai ancora a Ivi, se non la posso buco, non va a chi lo apro, dalla Puglia, si la Puglia sempre pura, la che vedrai tu. Ma è possibile? E poi che l'hai saltato, lo vabbè, se lo vabbè, ma te ci vi la dì, che cazzo, ma te ne rendi conto i soldi che ci vuoi? Se lo vabbè, arrivi tu pure a dire, te la compro io, cazzo, basta dormirsi la lampa in cura, di buono il buco, cazzo, a chi lo piglia sempre i pindenni di nappa, un ferro, pa, mondesca. È logico, il vabbè se ne è reso conto, no? È tra un paio di giorni la canura. E poi c'è di caramelle e tira lampi. Allora, se c'è di andare sempre bene, quando parava, dei ragazzi per vedere a Nanta e su Farruvicio. Tanto, sia la mamma che lo papà, gli dice, cosa è, dove, come ti sia è, Giuida. Per carità, cazzo, un asino, piuttosto di la brida. E metto sta fatto fine male, chissà vacca. Sono così duro lì, sarà con la Trento, tutta pratica. E beh, e se non la usi è logico. Chi non ha finito di pagare subito di guerra. Ma a me al senso che ci volevano, perché io quella per poterla pilotare lui, se doveva prendere il patentino, bisognava accorciarla, un metro l'aveva accorciata là, da dietro, dalla coda. Poi non corrispondeva più la cabina, la dovevi modificare, abbassare, restringere. Poi nel motore ci voleva tutto l'albero di trasmissione nuovo, accorciato, più corto, perché quello andava più bene, perché la barca era stata accorciata. Poi, per più, quel motore lì non ci andava più bene, perché corrispondente alla barca è il motore, e quello lì non ci corrispondeva più a quella barca lì. Più come voleva un motore nuovo, compri. Tu figurati i soldi che ci volevano a rimettere a bagno quel cazzo di barca. E non mi lavoro subito. E se hai fatto, secondo me i conti te hai fatti con la recce zuppolata. Certo, ma tutte queste cose non le devi fare, mica le devi fare. E già lo so già. Che vivono i luci, e poi la devi fare il collaudio, mi cosa ti credi? Che tu la conti? Pigli un camion, ce la butta a mare, ce la buona moglie e ce la andai. Mi che ne luci la goccia, non posso mai comprire. Dopo mi è giunto una lì, con salvagenti, giubbottini, pistola lancia a radio, un casino di cose, mi vuole la vacca. Che te l'ha detto? A casa qua la mi passerà un anno se vi travagli un anno in alto, se mi passa pure un anno quando finì la vita e tu stai già recuperando di questa attrezzatura. Allora mi vado a vivere a nata questa attrezzatura agitata, di questa casa è nata la bella, tutta arruinata. Ma allora è un fatto questo? Ah? Allora è un fatto questo? E beh, siamo di capo lui, cazzo, ma parlo cazzo era bene, mi dice Emilia Branca, ora che già sia a me, cazzo questa monta sta stabilizzata, tutta arruinata, io, milioni e milioni, gettati. Andava, se la pigliava nuova, perché era prima, era quella che amo io. E allora, buon fratello, ve lo dici, a casa il compagno che finì a questo, che doveva farsi a vedere, e ve lo dici, arriva a essere il compagno, certo, ma scusa, ma non ti conviene comprartela già a muglio? Questo la faccio così, la faccio così, la nave a poco di fantasia. Cazzo, una volta per la tavola di un'altra di Biglia, ma dimmi tu. Ma c'era di ciumacco, ma metto la di chi mi ha regata con un camion, Diana mi aveva regata il suo camion manno con la gru. Certo, mi pare aveva pagato più di 160 euro a parafinita, da un'inira pigiata io, da una campagna a regalni da ivi. Certo. Da poi prima si era fatta bonifura, da poi non l'andate a bere, ha trovato a chiamare un camion, sto rembragato, è nata un camion, mi l'ha portato dentro il cappannone, ma non c'è soldi che ci ha buttato. Sì, me lo posso immaginare. Tutto va con gas, va bene, va bene, poi la che aveva trattato il balcone, dalla falegnameria a fargli lo scheletro va a fuggiare, no? Oh, tavoloni, viti, longhi, ore di travaglio che faccio fatto io a conto del babbo, la sua faccia. Sempre a conto del babbo, fargli lo scheletro, ma poterlo appaggiare, trallare i tavoli, fargli la sala, va, dello scappo. Non bisogna mangiare il babbo. Tutti noi che si dicono cavalli luci, che hanno visto i cavalli, io non mi arrendato a mi facciare un mandato palco. Quando gli ripeto io una volta in casa, mamma e figliolo, io crebbene che fui i pavallazzi, ma io già ti mangio i cannavali. Un po' di voce quando gli dico la cosa, hai ragione, un buccarotto, un gas. Ma ti senti che qua può fare? Allora, guarda, non te lo dice, hai capito delle bestie, eh? Guarda che sai, c'è un'alternata, chi sei, ho sentito un po' la... piccolo piccolo. Ma che ti stava attaccando, che ti stava a fare? Taglia, lo colpisco. Bene. Ma lo è che la gara. magari con la doccia la pellucca. Ma le rustiche di male sono sarrate nei negozi. La doccia? Sì, l'ha detto che eri cuccato. Non gli ho attaccato la doccia, tu ci vuoi guardare qua, la doccia. Ah, hanno le spinte male, sono chiuse però, non sono aperte. Vabbè, no. Ma sono pulito, ma che sono problema. Cioè, devo stare la caduccia, ma non sta secchio. Poi, io non sudo più di tanto io. Sudo o no, no? Se no così non sudo. Figlia, cara gara, Natalia, cosa stai combinando? Figlia, non sto combinando niente. Natalia, ascolta a me. Ma sai quei soldi che ti hai preso tu, lo riprendo io. Perché non li prendi? Perché non ho lavorato l'anno successivo, almeno 4 mesi, boh. Non te li danno, no? Vabbè, alla fiducia, altro giro non va a corsa. E io il primo anno lo stesso non li ho presi. E vabbè, non ho problema. Ma che tempo, non vengano. Se non li vedi. Meglio visto che è nuda. Pensate la dici che non sto prendendo nulla, già arrivini, meglio tanto che mai. Ma come ti ho detto, mi aspettare qua un po', ma tu quanto all'uno, ma quel 31, non è se quindi di lì ancora. Vabbè, diciamo che i 31 giorni, contando la sabato della vita, sono passati, Ma la volta che sta lavorando qua, sono abbigliato proprio via, poi cazzo, che vieni tutto quanto, fini lo travaglio. Cazzo, così è, ovvio. E vabbè, qua venivo ribassati, 3 mesi ancora, ribassati. E vai così, ho detto di via, è vero. Praticamente che ti assenti bene e poi stai un bel po' fermo, ritrovo la gloria e tosto, ti ammazza. Qua la mia fregatura, ma pure c'è chiaro. Allora, la puntatura è chi sta già, quando vai che uno si arrepiene da arrivare la lettera che lui deve finire. A me mi si sono passati in un lampo, 4 mesi, io vi... vabbè, mi sono curato agli anni, nel senso che sto ricombando un bel, capito? E vabbè, comunque già... non bello. Natali, perché oggi? Perché stai fermo, la vedisci, ti piglia la travaglia, fai sul dopo di mesi, ti ci vuole le manco di nabizzi. Infatti. In un lampo ci passa. Marco, te ne accorgi se ti hanno disoccupato? Avvino me, proprio... E che te ne accorgi, pum, se ne va qua a terra. E così. Vabbè, comunque. Non c'è problema. Oh, è che da te, pare fatta apposta, mi Luca, tu in casa di babbo tuo sei di tua madre. Vedi, no, il cane sta arrivato a travagliare. Allora vedete cosa dici, se sei in casa popolare, da poi ti arrivi, al prossimo anno, no, ti arrivi l'aumento dell'affitto, come ti fate la minibusi? Certo, ma 4 mesi da poi, da travagliato l'hanno aumentato l'affitto di 200 euro, tutta un colpo. Ma che cazzo sono di una che sta travagliando? La mano di ridare è l'acqua di inibigliare. Ma infatti un cubo è davanti assicurata, che ti ammazza, la faccia all'altra. No, ma non penso, dai, non penso. Sono su per il reddito, no, dai, no. Ma su questo no, grazie. Io non so per il reddito, perciò non vado a pagare sui limiti di affitto. Sono comunale, ma se casa, no, non sono popolare. Ah, comunale sono quelli. No, a chi me ne vuoi dire, sono popolare. Certo. stai mandato la giornata di affitto, fa tutto l'anno a pagare, roba la macchina. E per dire anche a travagliare questi 4 mesi, ma a buffonelli sì. Via. Bene, bene, a dopo, mi prendi tu la carica. Se si fa tardi, un casino. E vai, vai a fare quello che stai facendo. Non c'è problema. Ma se non c'è che uno travaglia 4 mesi che hanno da buoni, ti ribigliani da massa a bassi, per carità, fanno schifo. E infatti, sanno uno che tu travaglia 4 mesi e ti ne ricavi mai. Ma pari che tu il coglioisa ce l'hai. E via. Guarda che adesso te lo devo rinnovare, mi leggilo perché sotto c'è scritta la scadenza. Sta del 1° aprile. Ehi, quando saranno il bozzo? Tanto stiamo chiedendo quello del 2008, io c'ho zero. Se adesso ce l'avevamo andata oggi, sempre torna. So che io sono andato a chiedere, me l'hanno fatto nuovo, da qui è tutto chiamato, non è come te prima, chissà mi ha detto. E me l'ha fatto nuovo a me, perché di con chi si voglio, se tu c'hai il contattore intestato a te della luce, tu lo dia e ti la regolavole se ti vado le due e ti fanno uno sconto sulle bollette che ti arrivano durante nell'arco dell'anno del 2010, capito? Sì, va bene. Già lo so, però stanno chiedendo quello del 2008 e dico quello del 2008 c'ho zero di reddito, capito? Perché non ho lavorato nel 2008. Sì, ma per il corso dell'ENI loro automaticamente te lo fanno, te lo rinnovano, perché se no, se tu non lo fai annuale ogni anno il subuglio, anche se ti chiedono quello del 2008, non te ne scalano più di chi si dotto dalla bolletta dell'ENI e ti arrivi piena, compreso. Sì, lo so, ma io non mangio puntare a nome mio. Ah, se non è a nome tuo, andare, se no è una truffa pure ivi, per carità. A me me l'ha fatto un uovo quel cuglio, allora mi si entra pazzo. E infatti, e poi quello che c'ho ancora io, cioè, quello del 2010 sarebbe quello del 2009, così è. Allora, io il mio scadeva quel puglio ISE, scade il 1° 04, al mese che entra. Allora mi ha detto, venga prima, un paio di giorni prima della scadenza, che devo rinnoviare. Sono cazzato e mi ha chiamato tutto, perché adesso è tutto diverso. E me l'hanno fatto nuovo, non me l'ha rinnovato quello. E così mi ha detto lo stesso per la bolletta della luce, quello lì me la devi salire, loro ce l'ho preso tutti i dati, adesso devo aspettare che lei nel notte ti manda la bolletta, quando mi arriva con la bolletta io le devo portare la fattura, che loro prendono i dati e controllano se mi hanno messo, se li hanno detratti, no, quello sconto che c'è, capito? Se no, non te ne vuole niente il butti, ne ti arriva a presciubiero. Ehi, Gianluso, aspetta un attimo che mi hanno telefonato. Ehi, ya. Grazie, ti devo lasciare che devo uscire, dai, ci sentiamo alle prossime. Ehi, ya, ciao, buon proseguimento, ciao. tutto.